Ok. E vi faccio il recap più veloce della storia, perché io immagino vi ricordiate tutto. Siete nella chiesa, avete chiesto a Ora di scindere la sfera si è aperta e al suo interno era contenuto un liquido che si è rovesciato a terra, ma soprattutto un oggetto a forma di cuore, con numerosi vasi sanguigni connessi, che batte ritmicamente. E in corrispondenza di questo evento sentite un rumore alle vostre spalle e c'è un ragazzo che esce fuori dallo stesso tubo, dalla stessa struttura da cui era uscito fuori Ricard. E questa volta è un ragazzo alto, dalla carnagione abbronzata, e che indossa orgogliosamente gli abiti della Zenithai, cioè della scuola di magia di Oclica. Prego! Ok. Adone Ricard. Ricard guarda il cuore abbastanza scosso. Non so se lo colpisce così tanto. Lo colpisce sicuramente, ma forse rispetto a 2 settimane fa, meno. E dopodiché, e dopodiché, però, sentendo qualcuno che cade, si gira subito e vedendo Lieto, corre da lui dicendo: Lieto, stai bene? Tutto a posto? Lieto. Più che altro voi, vi ho lasciato da soli per 5 minuti e mezzo, che cazzo state facendo? Beh, mi hai lasciato solo. Gli altri non sono con te? Ritorno. No, erano dietro di me, non sono ancora arrivati. Capisco. Poi si gira verso il cuore e di riferito a Mif dice: questo è quello che cercavi? Mif, che la vedi che in questo momento ha una mano sul fianco e l'altra si sta pizzicando il ponte del naso con gli occhi chiusi, tipo io ne ho abbastanza di questa vita. Che fa? Vuoi sapere la verità? E te lo dice a denti stretti, tipo. Se non ti dispiace. Io non sapevo cosa stavo cercando, mi hanno semplicemente detto di andare a cercare qui. Però ha senso che sia un cuore, non so perché, ma ha tanto senso. Domanda, Bianic, che io sappia, a parte che so poco, ma il cuore così non mi sembra tanto collegato al dio del sole, a freddo. Vuoi fare un roll? Prego. Religione. A posto! È un 1. È È un un 3. 3 Sì, più dai. 2, avevamo detto l'altra volta, mi sembra. Sì, guarda. Non conosci bene la trama, la storia del Dio del Sole. Quindi. Boh. Dopodiché mi avvicino al cuore che sta battendo Sì, adesso, giusto? ritmicamente. Percepisco energia magica, cioè. Perché ci dovrebbe essere un cuore che batte? Percepisci, non ti faccio rollare, una forma di energia. Definirla magica sarebbe non giustissimo. L'avevo detto a Mif l'altra volta, ora che è blatant, cioè che è davanti a tutti. Assomiglia di più alla teurgia, ma è diverso. Assomiglia di più al tipo di magia che usava Eidos, per dirti qualcuno che conosci, ma è diverso anche da quello. Cioè, ci assomiglia, ma è diverso. Non sai dire di preciso in cosa si somigliano e in cosa sono diversi. Ok, Adone pensa, ma quanti cazzo di tipi nuovi, diversi di magia esistono al mondo, Dio Cristo? Dici? E Sì, penso. Lo penso. E dopodiché mi giro verso Mif e dico: cosa dovremmo fare con questo? Dovremmo prendere. Ah, non ne ho la minima idea. Ma che cazzo è quello? Once again. Mif si gira verso chi è appena caduto dal cielo parte 2 e si mette a fissarlo e io qua ti faccio la domanda. Vianis, riconosce? Quella faccia la conosco. Ah, tra l'altro ha sentito anche il nome urlato da Ricard. Io direi che vi riconoscete. Ah, quella del negozio, sì. Uccisore degli dèi, sì. Sono passati un po' di anni. Uccisore degli dèi, eh? Sì, sì, perché da... nella piccola one shottina... No, no, tranquillo, non voglio sapere. Okay. Ricard, guarda, dice... Qua, vi conoscete? Abbiamo... Abbiamo avuto un altro incontro prima di questo. Sì, è diverso tempo fa. Conoscerci è una parola molto grande. Non la userei in contesto. Quindi anche tu sei uno dei colleghi di Ricard qui. Again, colleghi è una parola giusta. Io mi sono aggregato. Stavo cercando... mio padre all'inizio. Dio mio. Ricard dice sì, diciamo che Lieto è l'ultima delle nostre aggiunte, se così possiamo dire. Comprendo. No, non ti faccio la domanda. E qualcuno tira sul cuore? Adone ha già un fazzoletto sporco di sangue da altri feti che ha tenuto in mano, quindi direi che riprende sempre quel fazzoletto. Intanto Ora sta pulendo il nostro amico gigantesco usando una forma di magia semplice. In realtà l'avevo tirata giù, che ce l'avevo sulla spalla. Sì, sì, sì, sì. Quando è scesa ti ha pulito i vestiti dal sangue. In realtà appena vedo Ricard che si sta avvicinando al cuore, gli dico: se c'è bisogno lo prendo io, non ho niente da perdere. Riferito a me? Sì. Ok. Adesso parlasse del cuore. Sì, sì, sì, sì, ho capito. Ricard dice... Beh, se te la senti, prego. E ti dà il fazzoletto da usare. Mm-hmm. Prendo il fazzoletto con la mano destra e l'avvolgo al cuore. È per terra, no? Sì. O è sopra la sfera? No, è per terra, è caduto per terra. E lo prendo dopo che l'ho avvolto col fazzoletto. Okay. Oltre al fatto che comunque batte ancora, sento ancora, cioè, ha del calore. Ti chiedo prima io una cosa. Lo prendi con quale mano? Con la mano destra, quella imputtanita. Ok. Quanto lo stringi? Cioè, lo fai tipo conchetta, ci passi da sopra e lo tiri su, oppure lo afferri? No, cioè, vabbè, Nico non è molto delicato, cioè, ci metti il fazzoletto sopra e poi lo prende così, okay. Lo tira su, non è che lo stringe, però... Abbastanza da prenderlo. Ok. Esatto. Lo stringi, cioè applichi una certa pressione al cuore e vedete tutti, cioè lo percepite tutti, che appena fai questa cosa, la pressione che applichi non è eccessiva, è quella che servirebbe per tirare su un oggetto, ma è comunque una pressione che fa aumentare la pressione sanguigna del cuore, che inizia a battere più rapidamente. Quindi invece che tum, tum, tum, precisissimo ogni secondo, diventa una roba molto più accelerata. Inizialmente c'ha solo questo effetto. Ok. Il cuore ha iniziato a battere più velocemente. È normale, sapete qualcosa di questa cosa? E Lieto sto alzo sopracciglio. Sono arrivato adesso. E che cazzo è quella fire eater? È proprio quello che vedi, un cuore. Che pazzo. È arrivato. Wow. Non lo so, Vianney, se posso castare Horoscope o cioè vale soltanto su individui o magari andiamo riusciamo in qualche subito. Modo. Cioè, qua dice bersagli. Puoi vedere con Horoscope. Dura un minuto, quindi sono 60 secondi durante i quali gli altri mi devono dire cosa cazzo fanno. Esatto. Ma il punto è un altro, è che tu scoprirai delle robe con Horoscope, come sì. Ti ricordi. Benissimo, sì sì sì. Se vuoi avvisare gli altri che stai per fare sta roba. Esatto, cioè, Mif, vedete, provo a castare un incantesimo. Vediamo se ci può aiutare su quella cosa. Mibel, maneggialo con cura. Non stringerlo troppo. Giro la mano, lo tengo sul palmo, così non lo schiaccio. Rallenta, cioè ritorna a battere in maniera perfetta come faceva all'inizio, quando okay. Giri. Intanto si sta formando una pozza d'acqua nelle mani di... No, non perde più sangue, a quanto pare. Ok. Okay. Casto Horoscope. Okay. Avete un minuto di tempo durante il quale mi dovete dire cosa fa ognuno di voi. Io mi rivolgo al lieto e gli chiedo, non credo di aver capito qual è il tuo nome, io mi chiamo Nibel. Lieto allunga la mano, con fare abbastanza indeciso, anche che la stazione è un po' tipo, lieto, piacere. Gli porgo la mano sinistra in realtà, perché quella destra è occupata. Non so se hai visto la descrizione di Nibel, com'è. Non credo. No, non l'ho vista. Capelli rossi, un mattone lunghi, arrivano praticamente fino al culo. Giacca pesante addosso, barba, a metà del volto destro, completamente incancrenita, color bluastro, l'occhio... quello buono è quello ambra, quello l'altro destro è tipo, come si dice, tipo vetro, vitreo. Vitreo, esatto. Ed è alto 2,13 metri, tipo. Grossa stazza, spalle larghe, leggermente curvo, e vedi che è avanti con l'età. Ok. E tu mi sapresti dire di più su cosa sta succedendo qua? Uno lo conosco, è Indico Adone. Un altro, insomma. Io ti sottolineo solo una cosa, Ika. Adone è stato riferito come Ricard fino ad adesso. I don't know. Mi fa molto piacere questa cosa. l'aveva capito. Lieto ha alzato un sopracciglio, ha preso una botta in testa più forte del solito. Io. Magari adesso è etero, non lo so, è stato curato. Madonna. Il sopracciglio si alza leggermente. L'hai fatta a me la domanda? Non ho sì, sì, sì, sì. Ok, quello che mi hai chiesto, mi sono già scordato. Che cosa sta succedendo? Perché tutto quello che ho visto entrando io è stata una statua con una sfiga aperta a metà, da cui cola del sangue e un cuore per terra che batte. Quindi è stato tipo, ok, sure. In realtà non ti sei perso tanto, siamo arrivati qua da poco. Personalmente ero qui per fare delle domande al sacerdote e poi è successo quello che è successo. Cosa è successo? Nello specifico? Mif? Vuoi chiedere tu? No, è occupata. Sono occupata. Ti fa tipo... Ora si avvicina e... Cioè, si avvicina, sì. È lì. No, lo stavo dicendo in realtà, se vuoi continuo io, dimmi tu. E... La ragazzina che ora sta facendo il rituale è venuta qua per cercare tracce di non so quale evento tragico della sua vita. E a quanto pare era collegata alla statua che abbiamo... aperto, e al suo interno c'era questa cosa qua. Ok, Mifu guarda malissimo la stronza, però dopo si rigira. È stata una sorpresa per tutti, quindi che dentro ci fosse un cuore? a giudicare dalle reazioni, sì. E c'è il prete, il sacerdote della chiesa, che non è questa tipa qua, è un altro, che è così. Okay. Seduto così. Ok, ok, ok. I see. È un'altra di quelle situazioni, guarda Adone, falso. Noti, ormai c'hai l'orecchio per queste cose, che la tipa state parlando tutti nella lingua di Scirocco. Ok? E... che per te è strano in realtà, perché è la tua lingua madre, ma in genere parlate la lingua dell'impero, ok? Sì. Però tutti parlano la lingua di Scirocco e quindi hai autocompletato sta cosa. È quella di nascita, che cazzo faccio? Esatto. E noti che la tipa che ti sta parlando ha l'accento marcato di Oclica, quei posti lì. Oltre a essere fottutamente bionda, con gli occhi azzurri, alta 1,75 m. La tipa non è la sacerdotessa? No, cioè è vestita da sacerdotessa, ma dell'impero. Ora, realisticamente, non siete nell'impero. Cioè, chissà dove vi ha portato il vento, però... No, effettivamente io però so dove si è portato il vento. Hai una buona teoria. Ok. Dovremmo essere a... dovremmo essere... Non mi sta venendo il nome in questo momento. A Peira. A Peira. Siamo da Peira. Siamo da Peira. Ok, ok. Sì, Riccardo... Devo gaslightare. Siamo da Peira. Vatti, che testa di cazzo che sei. Un minuto secondo me è passato. Ok, questo io lo dico per Sara, in realtà sarà poi Miffa a decidere se dirvelo o no. Quando tu casti Horoscope, vedi il microcosmo della persona che stai analizzando. Ti appare come una piccola galassia, ok? Aspetti in cui... un secondo che accendo l'aria condizionata. Sì. Non era per lui la descrizione, però lo aspettiamo volentieri, perché siamo veramente dei bravi amici. E cazzo è andato a... Dove è andato a accendere la condizionata? Non vedi la mano, è sì, in corridoio la condizionata. Non so, sono povero, non ho queste tecnologie avanzate. Scusate, eccomi. Ciao, Eddie. Ok, quindi si manifesta in genere una piccola galassia con tutte le cose intorno. Forse più simile a un atomo, alla rappresentazione di un atomo, comunque. Sei abituata a interpretare questa cosa, cioè... Non è che casti Horoscope e capisci. In genere la devi interpretare, ma avendola come spell vuol dire che tu riesci a interpretarla. Lo dico consapevole che 3 volte su 4 in cui hai usato sta cazzo di spell non ha funzionato come doveva. I'm pretty much counting this one. Le magie che conosce la persona sono rappresentate come sigilli, pianeti, prendilo come vuoi, all'interno di questo schema. E nessuno di questi simboli ti è familiarissimo, nel senso che sembrano magie comuni, ma scritte con un alfabeto strano, per farti un paragone, una metafora. Ok. Sono sigilli, però. E... quindi in realtà non hai idea di che cazzo di spell conosca questo cuore. Poi... il suo livello è stato azzerato, realisticamente perché rimane solo il cuore e non è... non è vivo, quindi non ha un livello. Tu riesci a percepire con Horoscope il livello della gente, eccetera, eccetera. Livelli di classe, pardon. Me ne manca ancora uno, aspetta. I suoi tratti. Sì, tratti fondamentali. È un uomo. Innegabilmente un uomo. E credo di aver finito la lista dei tratti che ti posso dare. Ah! Che cazzo, vabbè. No, ti dico di più. Le spell ti dicevo che non riesci a riconoscerle, ma se dovessi categorizzarle col sistema di classificazione odierno, sarebbero tutte teurgie. Ah, ok. Ok. Niente, vedete che Mif finisce di castare la spell. Fa tipo una smorfia un po' gnè. E fa... so che castava, sapeva... era affiliato alle teurgie, ma non capisco di che genere. Cioè, sono scritte in una maniera diversa rispetto a come scriviamo noi le cose. Sapete riprodurre come sono scritte le magie? Perché ti chiedo domande, Pianici, tecnicamente con la mia tesi non riesco a capire di che epoca è. Ok, le magie non sono scritte, era una metafora. Scusami. Sono proprio... le costella... Ecco, faccio questo paragone. Ricordate che ognuno di voi ha un segno zodiacale? Sì. Ok, è come se fossero dei segni. Okay, però non sono le 78 carte che avete in mente, né le 78 carte rovesciate. È come se fossero altre carte. Ok, che quindi oggettivamente non le capisco. Esatto. Ok, scusami. Vai avanti. Sì. E quindi sì, vedete, questo cuore apparteneva ad un uomo, non so il nome, non so l'aspetto, non ho idea dell'epoca, probabilmente molto antica però, perché se no non avrebbe senso tutto ciò. Non so nient'altro, pensavo di riuscire a prendere di più. Ora si introduce nel discorso e dice, ah, quindi era un sacerdote. Può darsi. Come lo sai? Teurgie, tendenzialmente, sono i miracoli, le magie degli uomini di fede. Quanti anni abbiamo detto che aveva questo postaccio? Scusi, volevo dire questa bella chiesetta caratteristica. Il vescovo, il sacerdote Yelos, scocciato dal commento, dice circa 23-24 secoli. Gadeom! 2300. Sappiamo quando risale la sfera? C'è sempre stata la sfera? No. Sì. Non è l'unica del suo genere. Esatto, era una statua molto antica ed era un blocco unico. Un sacerdote di 2000 anni fa. Mi dice niente? Mi dice qualcosa? Ci dice qualcosa? C'è una lista di nomi? Un metodo per poter risalire a chi è? Mi rivolgo al vescovo, chiaramente. Il vescovo si gratta la fronte e dice sicuramente troverete qualche informazione al riguardo nell'Accademia di Magia. Ci saranno sicuramente delle sezioni di storia e cose del genere. Quello che mi preoccupa è che chiaramente si tratta di qualcuno che aveva a che fare con delle divinità, perché 2000 anni fa a usare la magia sacra erano appunto i sacerdoti. 2000 anni fa? No, ti chiedo io. 2000 anni fa? Era solo la Sacra, come si chiamava, la Santa Chiesa che poteva usare la magia. 2300 anni fa la Santa Chiesa non era neanche stata concettualizzata, non era ancora nato Dio. In che periodo eravamo nel 2000 anni fa? Cioè, è molto... 800-900 anni prima che nascesse Dio. Buonanotte. Sì, allora... Nel mondo reale, un ottavo secolo avanti Cristo. Quindi dei pagani, eccetera, eccetera. Credo che non ne sappia nulla di quel periodo. Credo sia anche antecedente o comunque concomitante alla nascita dell'impero Ronum, quindi ancora prima dell'impero. Arrivo subito. Possiamo provare a cercare delle informazioni appunto in chiesa, solo che trovarle sarà un po' difficile. Altro trovare informazioni effettivamente rilevanti. Sì, bisognerà fare delle ricerche, ma come conserviamo quello che indica il cuore? Ha retto così tanto tempo. Sì, sigillato dentro la sfera, quindi non affetto da tutto quello che è all'esterno. Ma sbaglio? Prendo la sfera che è a terra. La mezza sfera. Sì, che sarà aperta, comunque sarà tipo la ciotola. E ci metto il cuore dentro. Ha un posto dove tenerla, vescovo? Posso... Beh, sicuramente dovremmo fare delle riparazioni e nascondere la statua in modo che nessuno veda che cosa abbiamo fatto. E pulire per terra. Esatto, e ho un reliquiario al piano di sopra dove possiamo conservarla. È un posto sicuro? Beh, evidentemente no, altrimenti loro due, e indica Richard e Lieto, non sarebbero potuti entrare qui dentro. E noi siamo arrivati coi funghi, quindi stai buono. Coi funghi? Coi funghi? Richard ti lancia un'occhiataccia. Come dire, non dovevi dirlo. Io sono spallucce, tipo... sì, diciamo che il nostro metodo di teletrasporto è stato un po' non convenzionale. Stramaledetta Prometea. E allora Richard dice... Ah, chi è che lo dice? Il vescovo, il sacerdote. Ah, okay. Lei conosce Prometea? Prometea Talos, sì, frequentava la mia chiesa ormai 30 anni fa. Ah, quando era una bambina, insomma. Cioè, perché Prometea non ha... Cioè, 50 anni, anni tra i 40 e i 50. Sì. Ah, allora scusate, no, ritorno indietro. Ignorate questa parte, me la ricordavo più giovane. Scusate, 40. Vabbè, comunque dice... Se li okay. Porta bene, tua difesa. Yes! Dio cane, sembra averne 30. Vabbè. E... Vabbè, no, appunto, Richard sorpreso dice... Ah, quindi probabilmente sì, opera sua i funghi. C'è molta muffa lì sopra. Sì, veniva sempre a giocare qui dentro. E quindi credo abbia fatto qualche rituale vietato da queste parti. Credo proprio di sì, però... Lei era... È stato utile. Una delle poche persone a credere ancora negli dei che frequentassero questa chiesa. Quasi tutti vengono qua per farsi guarire gratuitamente. Sì. Sì, capisco. Beh... Credo che sia un posto comunque sicuro dove tenerlo il cuore piuttosto che portarcelo dietro. Ora ti... Che chiaramente ha pensato ai cazzi suoi e non ha ascoltato una sola parola di quello che avete detto finora. Se ne esce con... Ma se Horoscope ha funzionato vuol dire che quell'affare lì è vivo. Beh, chiaramente parlo. Horoscope... Funziona, cioè mi stai dicendo che il cuore che è vivo basta o implica che il corpo di questa persona sia da qualche altra parte? Se tu lo casti su un dito mozzato non ti rivela nulla. Già. Le dita mozzate non battono. Anche quello. Neanche un cuore madre! Corpo. Dio cane. Neanche un po'. No, cazzo volevo dire. Richard dice, ma non conoscete per caso qualche esperto di necromanzia? Posso provarci? Sei una necromante? No. Se vuoi. Che cosa devo fare? Vuoi provare a rigenerare il corpo di questa cosa? Oddio, l'intero corpo la vedo difficile. Ora, domanda genuina, piano, perché qua è Eddie che esce fuori. Non esiste parlare con i morti, anche perché ci sarebbe bisogno... Ripeto, cioè, manca la materia prima per parlare con i morti, appunto, manca il morto. Manca il morto. C'hai ragione. Eh sì. Tra l'altro, cazzo sì. Possiamo fare con... Cioè, è un dietro fa notare che... Se ha funzionato la magia precedente, significa che questo è vivo. Se questo è vivo, il necromante ci fa cazzi. No, ma il necromante servono però... i morti. Allora, dipende cosa ci vuoi fare. Se vuoi rigenerare il corpo, no. Però Adone... vabbè, Richard ha notato una cosa. Che tu hai una cazzo di spell per questa situazione e non dovrebbe dirtelo il master. Oh mio Dio! Grande Eddie. Wow. Che spell è rigenerare persone da un cuore? No, parlare con no, chiunque. Richard, esatto. Richard, giustamente, ha la luce divina, gli è caduto il coniglio in testa. Dice, Posso provare a fare una cosa io. E a questo punto casta Every Talk. Verso il cuore, fucking guess. Every Talk lo è un'aura. Te la casti su te stesso. Ok. Io lo metto su una panchina nel frattempo. Sai che stavo letteralmente pensando, cazzo, sarebbe bello avere telepatia. You fucking do. Sì, proprio una roba che hai preso per queste situazioni, vero? Su una panchina, perché non ho intenzione di portare una sfera di rame di 25 kg per... Sì, in effetti, non è proprio uno stecco. Poi mi rivolgo agli altri e dico, ma se tipo lo piantassimo per terra, magari cresce come una pianta, così del genere. Tanto. No, aspetta, prima di fare qualsiasi cosa... La scena l'ho già vista in qualche maniera. Proverò a parlarci, dice Richard. Okay. Cosa normale. Parlare ad un cuore? Sì. Se è vivo, tecnicamente, questa magia mi dovrebbe permettere di parlare con qualsiasi cosa che sia viva. Anche telepaticamente. Quindi, proviamo? E provo a interpellare il cuore. Ho bisogno di un secondo, sai benissimo certo. Perché. Certo. Vuoi che gli faccia io la prima domanda, lo saluti o... Sì, sì, dimmi cosa gli vuoi dire per iniziare la conversation. Dice appunto... buongiorno. Cioè, gli dice buongiorno normale. Ora... Quando tu fai Every Talk, impari a parlare qualunque cazzo di lingua, ok? Perché è una roba... Però l'accento, diciamo, rimane, è una cosa che continui a percepire. E l'accento è un accento arcaico di Apeira. Sta parlando in un greco antico molto rough, diciamo. L'entità, dall'altro lato... Dice, com'è possibile? Com'è possibile cosa? Che ti stia parlando? Esatto. Chiunque tu sia, signor... È così tanto che non pronuncio il mio nome, che quasi l'avevo dimenticato. Credo fosse Cronos. Ok. Signor Cronos, non mi suona familiare ad Adone. Zero. Okay. Signor Cronos, abbiamo trovato il suo cuore e ci stavamo domandando appunto a chi appartenesse, così abbiamo deciso di interpellarla. Silenzio. Ok, nessuna risposta dall'altro lato. Ok. E a questo punto dice... Signor Cronos, lei... è consapevole della situazione in cui si trova? 7, 2, 5, 3, 2, 8, 5, 1, 4, 5, 6, 7, 8... Più di 72 miliardi di secondi di battiti. Prima di cosa? Sono passati da quando mi hanno sigillato. Equivale tutti quei secondi, non lo so, a tutti questi... Vabbè. E dice... Chi è che l'ha sigillata? Credo che il suo nome fosse Yelos. Dio Yelo? Non so cosa fosse. Capisco. E lei invece, signor Cronos, chi era? Silenzio di nuovo. Damn. Adonensi si dice era un sacerdote? Qual è il tuo nome? Il mio nome è... Il mio nome è Adone. Non ho mai sentito questo nome. Non Credo che veniamo da due epoche molto differenti. Sarebbe strano se lei l'avesse sentito. Adone, posso chiederti un favore? Sì, mi dica. Ti dispiacerebbe stringere il mio cuore? Per fermarlo? Stringilo e basta. Ok, Adone si rivolge adesso agli altri, parlando normalmente, dice... Questo cuore apparteneva a un uomo di nome Kronos e dice che è stato Ielo a sigillarlo in questo modo e vuole che gli stringa il cuore. Il vescovo parla prima di tutti gli altri e dice Ielos? Così ha detto. Nel senso che è esistito veramente? A quanto dice, quando gli ho chiesto se parlasse, se si riferisse al dio, mi ha detto non so cosa fosse, quindi... Non saprei. Noi abbiamo sentito la visione, chiaramente non dalla parte di Kronos, ma dalla parte di Adone. Esattamente. Sì, vi sto riferendo queste cose. Lo sbuffo con la mia pipa e ti dico, tu cosa vorresti fare, Adone? E a questo punto Adone sospira e dice: beh, quello che ditemi voi, non so cosa stringergli il cuore potrebbe causare, se banalmente potrebbe ucciderlo. Volete che io chieda qualcos'altro prima? Devi farlo per forza tu? Potrebbe anche... l'ha chiesto a me. Potrei chiedere, non so se è importante o meno. Forse perché sono l'unico con cui sta parlando. No, niente. Non so quanti. Guardo Misk. Mi si è bloccata la cam, Dio cane. Mi osserva il cuore. Guarda Adone, I guess. E gli fa: informalo della nostra presenza. Chiedigli se conosce un certo Arva. Vabbè, la mia cazzo di telecamera è esplosa. We are so back. E a questo punto Adone dice: Kronos? Signor Kronos? Dimmi. Risponde? Ah, okay, no, ok. Fa una lunga pausa. Ok. Lei conosce un certo Arva? Così si chiama. Vedete tutti che il battito del cuore accelera. Ok, cioè una cosa che appena chiede sta roba qua, il cuore inizia a fare tutun, tutun, tutun, tutun, invece che tun, tun, tun. Certo. Distrettare il povero signore. Esatto. Egli mi ha abbandonato. Ok. Adone riferisce subito a Mif dicendo... Dice che Arva lo ha abbandonato. Abbandonato come se abbandona un figlio o abbandonato come se abbandona un fedele? Questa è una domanda che Lieto sta facendo. E che anche Adone guarda Mif con questa domanda bizzarra. Mif vi guarda entrambi e fa: non ho idea di come, però è abbastanza simpatica come cosa. Pensa a quello che gli ha detto Arva. Ed è funny che lo stesso Arva l'abbia mandata qui. Tanto che si gira verso di te, Adone, e ti fa: beh, se l'ha abbandonato, adesso ha ripreso interesse, a quanto pare. Allora Adone riparla con Kronos e dice: credo che una dei miei compagni conosca Arva e che forse ha ripreso interesse verso di te. Lunga pausa, il battito ritorna normale. Quindi... è stato lui a mandarvi a liberarmi? parlo, questa volta mi riferisco a Miff e dice: Arva è un dio? Sì. Dun dun. Dun dun. E a questo punto dice: ti ha mandato per, ti ha mandato qua per liberare Cronos? Mi ha mandato qui perché mi ha detto che un pezzo di verità sarebbe stato in questo tempio. Non che eventualmente avessimo liberato qualcuno. Cioè, non sapevo di questa cosa. Mi è stato riferito solo questo. Adone riprende a parlare a Cronos e dice: non ne sono sicuro. Credo di sì. Nella sua ottica, 2000 anni sono un battito di ciglia, probabilmente. Immagino di sì. Quindi vuoi che stringa il tuo cuore? Esatto. Ok, allora Adone va e prende il cuore in mano. Che lo stringe. Cosa succede? Oh no. Ah, fanculo, è premium sta cosa. Che palle, su Ira era gratuito. Quando stringi il cuore, il battito si fa più rapido man mano che stringi. Quando lo stringi al punto quasi da schiacciarlo completamente, il battito è rapidissimo, è una mitraglia, è un frenetico. Ma colpirti non è questo fatto. È che la luce da fuori la chiesa si fa prima rossa e poi si spenge. Ok. Cosa fai? Continui a stringere. Qualcuno di voi reagisce al fatto che... Adone si sta guardando attorno un po' preoccupato e vi guarda. Questa cosa non l'abbiamo già vista. ci sono delle finestre in questo posto? Sì, è dalle finestre che la luce smette di filtrare. Penso che Miff corra a guardare oltre la finestra. Cioè, nel senso, riesco alto, a vedere come, fuori. Porco, una chiesa sono... Non penso che aprirebbe la porta, Miff. Quello fuori è il sole. Io lo so. Non hai ancora visto fuori da questo edificio. Esatto. Quindi... Ok. E allora lo chiedo. È quello è l'esterno? Sì, è l'esterno. Quindi quello è il sole che si sta spegnendo, vero? Non cosa? Lo so. Pulsando? Il vescovo si alza, calpesta il pavimento e sentite un cric cric cric. Guardando per terra, sentendo questo suono, notate che il sangue che si era sparso, o comunque il liquido che si era sparso, si è asciugato completamente, formando una patina, una specie di crosta sul pavimento. Adone continua a stringere il cuore. Fuck it. Sei sicuro? Not really, but... Una forte plot. Ora è molto felice di questa cosa e se la sta godendo a distanza di sicurezza, se me lo state chiedendo. Posso aprire una parentesi? Io credo che Pianeci non abbia presentato una donna sana di mente in questa, campagna, non una donna non sadica. Allora. Ok, forse Prometea. Forse. Forse. E la vita in arte. E comunque c'erano dei dubbi. Ok. Se nessuno ferma Adone, nessuno fa niente, lo stringi fino con tutta la forza che hai a schiacciarlo. Poca. E la luce ricompare da fuori le vetrate. Ok. E scompare e ricompare e scompare e ricompare e scompare e ricompare finché il cuore sparisce dalle tue mani. Cosa? Non rimane niente nelle tue mani. Apro le mani. Posso ancora comunicare con il cuore? No, ma ti dico di più. Every Talk ha una durata che è di 5 minuti. È scaduto da un botto. Ah, cazzo. Pensaci meglio. Pensaci bene. Perché qualcuno ha capito. I fucking killed him. No, pensaci ancora un attimo. E Vito che è scaduto mentre gli stavi parlando. E hai continuato a parlargli. Hai continuato a sentirlo. Dico, ho paura. Mi è entrato in capo. Che cazzo. Una delle tante voci di Adone, insomma, è andato a fare parte. Ok, a questo punto Adone, un po' cacandosi sotto, prova a chiamarlo, dice, Cronos? Fuori c'è una luce normale, come se fosse sera al momento, per capirci, e la tua voce rimbomba nella stanza. È quasi ovattata, in realtà, la tua voce. Mi rollate tutti un D10 di resiste... sopportare, scusate. Quindi porca troia, Adone! Oh mio Dio. Io ho fatto 3. Oh mio Dio, ho fatto 7. Sopportare era fisico? Sì, è fisico. Allora, Adone ha più 0. Nibel ha più 6. Mi fa più 1. Lieto ha più 4. Mi dite chi ha fatto più di 10, salvo, cioè non succede nulla. 10 esatto, come lo mettiamo? Salvo. A posto. Tra 5 e 10... Io? Sì. E Adone è sotto 5. Io rollo... Ne rollo 2. Uno per la... Il primo per la tipa, il secondo per il sacerdote. Ho fatto 12. Salvissimo, c'è problema. E la tipa salva, il sacerdote ed Adone iniziano a starnutire. Ma starnutire tipo brezza o starnutisco sangue? Allergia alla polvere. Ok. Mif, hai quella sensazione come quando entri in un posto sporco. Ok. Però, non, cioè, ti dà noia come dà noia a chiunque. Altri sono nel chill. Vedete appunto che Adone e il sacerdote di Yelos stanno starnutendo. Tutto bene? Allergico ai cuori pulsanti? Ma che cazzo! vedi che il sacerdote ha gli occhi proprio rossi e dice più alla polvere? Polvere? Mi fa sto punto si reca ad aprire, tipo socchiudere un pochino la porta per vedere fuori a sto punto. Nessuno la ferma? No, sono curioso anch'io, anzi, seguo Biff. Apri la porta, vi ricordo che era circa mezzogiorno quando è cominciata sta stronzata. Sì. Luna, tipo. È il tramonto. È il tramonto e fa freddo. Fa freddo e il cielo è pieno di nuvole, è proprio un cielo autunnale. Gli alberi, i pochi alberi che ci sono sul vialone sono secchi. Io niente, sembra cambiato. Cioè, li seguo. Sto ancora starnutendo? Sì, Sara, è cambiato. Quando siete arrivati non erano secchi. Ah, okay. Ah, ok, grazie. Prego. Once again, dietro, tipo, mai stato. è normale? Esci, faccia così freddo? No, non è normale, sia il tramonto. Oddio, è vero. Cioè, Adone si guarda un attimo attorno e vede... Questo posto non doveva essere sufficientemente caldo dalla brochure che avevo letto. Sì, giusto. Sì, c'era... tipo Biff che fa. Era comunque ottobre, tipo. Come? Era comunque ottobre. Era il 5 o il 6 ottobre quando abbiamo iniziato. C'è Biff che si gira lentamente verso Nibel e fa: Nibel, concordi con me che siamo arrivati qua per mezzogiorno, vero? Sì, era l'una più o meno circa. E perché c'è il tramonto fuori? Non chiudere a me, che non ne so niente di queste cose. Smith chiude la porta. Quando chiude la porta, sbatte e la polvere che era sulla porta viene sbattuta oltre, quindi fa tutta quella coltre di polvere. E non era così sporca sta cazzo di porta quando siete arrivati. E insomma, okay, è passato Adone del tempo. Dice l'ovvio, infatti dice che siamo andati avanti nel tempo. O indietro. Com'è le, cioè, a parte la polvere, dal punto di vista di manutenzione, com'è messa la chiesa al momento? Allora, se vi ricordate, è divisa in tre blocchi costruiti in tre epoche diverse. Il blocco più antico non è cambiato, cioè è quello. Il legno che stava sotto il piedistallo è marcio. Notate che le giunture dove avete fatto il taglio per aprire sono tutte scrostate male, proprio rovinate. Mi rollate tutti un di 10 per investigare, intanto che io faccio questa esposizione. No, Adone! Grandissimo Adone! Ma sì! Ma porco Dio! Il legno che costituiva le parti nuove, diciamo, è effettivamente mangiato dalle tarme. Cioè dei buchi corrispondenti. Oh, grande Mif. Vediamo gli altri prima che io vi spoileri. Arrivo, ci potete aspettare un attimo che devo andare in bagno. Vai, vai, vai. Grazie. Mai. Vogliamo fare 5 minuti di pausa o è presto? No, presto. Ok. Ok, niente, solo Sara. Cioè, non c'hai più 7 a investigare con Lieto, vero? No, alto ma non è così alto. Sei 3, ok, 6. Sì, sì, sì. Infatti, no, no, no. Allora, Eddie, come ce la stiamo gestendo? Sta rollando male Adone, porco Dio. Non ha fatto più di 4. Ma la mia cam. Fortissimo Adone. Mi vedete? Sta caricando da me. Sta caricando. Beh. Anche prova a riavviare direttamente Discord. Per cogliere l'occasione. No, no, no, il problema della mia cam proprio, quindi staccala e riattacca. Lo so, è che purtroppo adesso è proprio sotto cioè proprio dietro il computer perché non ho abbastanza port. Ah, ok, ok. Ho lo stesso problema. Dio cane. Oh mamma. Ma quindi, scusatemi, non ho capito una cosa, ma quindi, cioè, io eccomi. Dico Cronos nella mia voce, nonostante, cioè, nella mia testa, nonostante... Non lo sai. Non lo sai, ma sicuramente la cosa è finita. Allora, dove siamo rimasti? Siamo rimasti al fatto che Mif è l'unica che si accorge che anche voi siete cambiati. Che... A Lieto è cresciuta un pochino la barba. Al vescovo è cresciuta molto la barba. Cioè, c'ha proprio il... Capito? Cioè, la barba incolta. Aspetta, perché ce n'ho una da dire per ultima. Sto guardando gli altri. No, vabbè, gli altri hanno i vestiti un po' sgualciti, ma più o meno è normale, cioè... Erano già abbastanza rovinati, sono forse un pochino più gialli, non è una roba che si nota benissimo. Quello che invece noti, che prima non era così, cioè quando vi siete incontrati, è che Adone, sull'indice sinistro, ha tutto l'indice sinistro di metallo. E insomma, la peste. La Io ovviamente questo è stato detto ad altissima voce. No, io non ho sentito. E la peste l'abbiamo portata anche qua. No, ok, però Adone non se n'è ancora accorto. No, Adone no. Solo Mif ha notato che hai un dito di metallo e prima non era di metallo. La mia c'è malattia che... Infatti. E non è cambiata particolarmente. Cioè, diciamo che c'ha dei cicli. Hai già notato che ha dei cicli, cioè delle fasi in cui si gonfia e si sgonfia, si sgonfia e si sgonfia. Quindi forse è un pochino più espansa, ma non in modo notevole, soprattutto per una persona che comunque t'ha visto da poco, quindi non ha un'idea precisissima. Il dito è molto più facile da vedere che ha delle differenze. Miff, che vi ha guardato, che si è guardata intorno e che vi ha guardato, si gira verso Adone e fa: ok, siamo avanti nel tempo. Quello che cazzo è? Indica il dito. Adone si guarda il dito. Pianic, hai so un bellissimo cos'è. Flashback. Te lo ricordi, Adone? Te lo ricordi? Io me lo ricordo. Che c'era una polvere per terra e Adone ci avvicina il dito per vedere come reagiva. Io me lo ricordo benissimo. E se lo ricorda anche Adone, secondo me. Sì, sicuramente. Stupidamente prova a toglierselo, ovviamente, ma no. È attaccato. E vedi che se lo tiene... Dice, no! No, non doveva succedere. Mi sento strano, sento qualsiasi cosa differente. Il polso lo muovi in maniera molto meccanica, molto lenta. Il resto del corpo è abbastanza naturale. Cioè, è abbastanza normale. Lo avevamo sistemato una volta. Basta. Adone dice, no. Questa cosa non va e bene. E cosa... Che cosa dovrebbe essere quello? Non li leggi i giornali? Dice Ora. Domanda. Miff, li ha letti i giornali? Hai avuto modo di leggerli? I guess. Gli ultimi. No, perché durante il treno hai fatto dell'altro. Giusto? Giusto. Ah, non ho avuto occasione ultimamente. Beh, la doplica... Prego. Hai sentito che avevo detto che siamo arrivati con un portale, vero? Sì. Non so se Adone ha accennato qualcosa, ma ce ne siamo andati da Oclica per scappare da quello, e indico il dito di metallo di Adone. Non è la prima volta che succede a qualcuno, a quanto pare. Anzi, oh, wow. Ad Oclica è diventata un po' un'epidemia. E ve la siete portati dietro. Già. Doveva essere guarito, in teoria. As far as I know. Ok, ho due domande, Pjanic. Vai. Una è, mi sento più pesante? Certo! Porco Dio! Che domande! No! Ok, adesso mi serve una domanda di lore, effettivamente. Io... C'è un motivo per cui io dovrei essere immune a sta cosa? No! Dimmelo tu, se c'è, non vedo l'ora di scoprirlo. No, perfetto! Allora dice... No, questa cosa... No. E io adesso non mi ricordo, Eddie, cosa abbiamo fatto. Com'è che abbiamo... Cazzo, la reliquia, il feto. Ah, oh cazzo, la stiamo prendendo alla larga. Mi piace molto l'idea che c'è Adone che sta dicendo queste cose e gli altri che sentono la reliquia e il feto. Sì, Adone proprio dice, no, allora... La reliquia, poi il feto, ok, quello è sparito. Miff si gira verso Lito e fa: che cazzo è successo ad Oclica? Dove sono gli altri? Dov'è Naya? E guarda un attimo Adone, cosa significa tutto questo? È vero, Naya, dove sono gli altri? Erano dietro di me e non li ho più visti. Non sono usciti, possiamo tornare a vedere. Sono io nella... vado a vedere lo schifo da cui sono uscito io e indico tipo il buco da cui sono uscito. Ok. Vi ricordate voi due che non era pulito? Certo. Ma non era messo così male come è adesso? Cioè, non ci si passa da tanto muffa. Cioè, la muffa è spessa una spanna. Ok, è un cilindro ormai di muffa. No. Quanto è pericoloso da 1 a 13... È meglio starci lontano. È muffa, cioè è una roba del mondo. No, reale. No, intendo, scusatemi. Adone. Cioè. Ah, scusa. Sufficienza. È letale. Vi sentite più pesanti? Avete cambiamento nel vostro peso? I due NPC dicono che stanno bene. Anche Lieto mi sa che sta bene. Anche Nif mi sa che sta bene. Nif sta bene! Generalmente sto sempre una merda. Né più né meno. Non ho notato molta differenza. Ok, adesso Adone sta andando in full panic mode. Dice, no, dobbiamo capire quanto tempo è passato. Sono passati mesi? No, anzi, non penso. Forse? forse adesso è sobrio. È vero, è vero. Adesso è sobrio e non ha neanche il tabacco spaziale nel sangue. True. Comunque c'è lieto. Miff esclude la cosa che mi fa. Cioè, la barba di lieto e del vescovo sono cresciute, ma non mi sembra una crescita da mese. Il vescovo lei che tocca... è esperto di barba. Il vescovo non se n'era accorto. Ho un padre! Quanto tempo pensate che sia passato, si gira verso di voi? Non so, voi sapete quanto vi cresce la barba. Il vescovo dice no! La faccio tutti i giorni, sono un uomo di fede, devo essere presentabile. Io l'avevo fatta 3-4 giorni prima di partire, massimo. Quindi una settimana, mettiamo? Sì. Io direi di uscire fuori da questo buco, trovare un giornale di oggi e scoprire qual è la data. Tu fasciati e ti dà il fazzolettino azzurro. Gentilmente concesso è molto importante. Ti guarda e fa: me lo spacchi, me lo rompi, qualsiasi cosa, e tu non esisterai più. Prego, usalo pure. Credo che abbiamo problemi molto più gravi del tuo fazzoletto, Miff. Sei la più gente morta in Final Destination. Che modi orribile. È come se tu ci avessi messo un cerottino sopra. Però esatto. Sono tipo squartati, cioè sono passati per una griglia di metallo, sono dei cubetti. Ce n'è otto. Almeno è coperto. Sì, sì. Certo. Conviene che usciamo tutti? Quanto tempo si attua la trasformazione? E contando 5 giorni, Vianic. Io non ti dico un cazzo, se te lo sei segnato, bene, sennò... Sembra un... È un paio, forse una settimana, però era... Io non ero proprio lì quando è successa quella no, cosa. No, arrivato tecnicamente sono passati dovrebbero 5 giorni. Però Vianic, correggimi se sbaglio, la percezione che ha Adone è che sia cioè Adone da questa cosa che è appena successa, metti che sia passata una settimana, secondo Adone dovrebbe essere già esploso lui, se fosse passata veramente una settimana. Non avete la più pallida idea di quanto duri sta cosa qua, dico. Ok. Se vi siete segnati qualcosa perché qualcuno ve l'ha detto è un conto, altrimenti non avete idea. Avete menzionato che qualcuno era guarito da tutto ciò? Sì, dopo aver utilizzato una reliquia, che adesso non è più in nostra possessione. Chi è che l'aveva presa? L'aveva presa Devin? No. La reliquia l'aveva portata... A mia madre. Mamma mia! Tu lo adotti! Madonna, è vero! Porca troia! Mamma mia, Gideon, gli auguro tutto il male. Non è Gideon. No, chi è che era stato? Erindor! Mannaggia il signore! Oh, mi spiace, stiamo parlando di personaggi. Fate. Scusami. Arriverà la spiegazione. No, adesso non ce l'abbiamo più quella reliquia da utilizzare. E comunque era stata usata una volta e poi non si poteva più riutilizzare tecnicamente. Andiamo fuori, dobbiamo capire quanto tempo è passato. Sei sicuro di voler andare fuori? È contagiosa quella roba. Sì. Credo, non lo so. Sì, sembrava esserlo. Sì, sembrava e essere. Il contagio come si trasmette? Non lo sappiamo, quello è una roba che non... c'era una teoria. E la teoria era la polvere. La... Ah sì, vabbè, Adone menziona questa cosa. Io... ho toccato... Vi spiego un attimo cos'è questa cosa, dice. Questa malattia, se così possiamo definirla... praticamente trasforma il corpo in metallo, in delle specie di creature senzienti fatte di metallo e di questa polvere strana. Io sono entrato in contatto con la polvere proprio dal dito. E siamo stati... Polvere visti... normale? No, polvere metallica che rilasciavano queste creature una volta morte e dopo essere esplose. Siamo stati messi in quarantena, io e Naya e le altre persone che erano con me proprio per questo motivo. E avevamo idee anche per altri ulteriori, ma principalmente il motivo era la quarantena per via di questa malattia. Ok. Io mi giro un momento Fantastici 4 e verso il sacerdote e riguardo le mani. Normalissime mani. Ok, ma visto che è starnutivo anche lui, no, non è un lieto tifo sapere che la parte del corpo non è specifica. Sì, è un caso, perché io sono... È un caso. E l'aumento di peso è la cosa... più lampante. Si sente appesantito, signor Vescovo, signor sacerdote? Come se avesse mangiato troppo. No, in realtà. Bene. Ok, dobbiamo spiegarci. Ma io sono stato esposto a niente di tutto questo. Certo. In caso, usciamo. non ha senso rimanere qua. Sì. Il cuore che è stato... Ah no, è sparito. Scherzone. Provo a cassare di nuovo Every Talk. Devo avere un... Every Talk è un'aura, lo cassi su di te e puoi parlare con chiunque tu riesci a percepire entro 6 metri, una cosa del genere. Non riesco a percepire il cuore, vero? No. E nessun'altra entità. Beh, ci sono i tuoi cari amici lì intorno. A parte i miei cari amici lì intorno. No, direi di no. Va bene, usciamo. Il dito metallizzato qua qual è? L'indice sinistro. Perché sei mancino. Sei mancino. Ah, sì. Ok, no, era per sottolineare sta cosa. E... Adesso ce l'hai coperto con quel fazzoletto di Minf. Sì. Esatto. Metallizzato, se vuoi una descrizione più precisa, cioè non sembra fatto di pelle, sembra che sia un guscio che contiene qualcosa, come... Sì. Un automa. Una ma sembrerebbe tipo anche protesi, sì, volendo. Esatto. Un dito, sì, prostetico. Victor Arcane. Sì. un pochino. La costituzione è quella. Inei anche. Hai visto? Beh, dico Mif, se ci tieni al fazzoletto posso dargli il mio guanto. Da che gli copra la mano e possa andare, insomma... Che non faccia cadere l'occhio, ecco. Grande Michael Jackson. Esatto. Con un guanto solo. Guanto solo. Mi tolgo il guanto sinistro, quello della mano buona, e te lo porgo. Ci stanno tutti quattro mani, probabilmente. Giusto. Grazie. E si mette il guanto. E... Tienila in tasca, quella. Quella polo. La mano, tienila in tasca. A questo punto. Cioè, allora... Non è necessario sventolarlo a tutti. Ho capito, però sono mancino. Occhialino, usa la cazzo di destra. Il vescovo dice che lui ha bisogno di metabolizzare tutte le robe che sono successe. Aspetterà qua e metterà via le parti che avete rotto della statua e cercherà di aggiustarla. Insomma, non far capire che è successo quello che è successo. Insomma, usciamo di qui. Ora invece si aggrega. In realtà vorrei rivolgermi ad ora un attimo e le chiedo: tu non eri una dottoressa? Sì. Si può fare qualcosa per questa cosa? È ancora una roba nuova. In realtà, ricordi che ti ho detto che sono dovuta scappare? Sono scappata prima che succedesse la tragedia. Letteralmente 2 giorni prima. So che sembra una balla, cioè una cosa che mi sto inventando adesso, però sì, è stata una coincidenza strana. Perché sei dovuta scappare? Non lo so, l'esercito ha cercato di uccidermi. Lavoravi in una centrale? No, lavoravo alla cattedrale di Tilia. Ok, sì, che non è quella di Oclica. No, sono andata alla cattedrale di Oclica per fare altre ricerche e degli uomini dell'esercito hanno cercato di ammazzarmi. dopo che ho curato una donna che aveva perso i piedi. E qua... Ok, no, niente. Nessuno che lo sappia. Devi sapere di più di questi piedi, ma mi faccio gli affari miei. Dio mio. Bene, direi di uscire. Esatto. Direi di uscire e trovare un giornale prima che faccia troppo scuro. Non so come funzioni, se dopo il tramonto siano aperte certe attività. No. Ma cioè... sicuramente qualcosa si trova in giro, anche fogli per terra o anche persone, basta approcciare qualcuno. E accendo la mia pipa, se ho ancora del tabacco da qualche sì, parte. Tabacco... Anzi, okay. È anche più saporito, diciamo. Ah, perfetto, si sì, è stagionato. Sì. Me l'accendo, faccio due sbaffi come se non fumassi da 20 anni. e dico... ormai siamo tutti dentro questa cosa, non si torna più indietro. Ok. Uscite tutti, tranne il vescovo, quindi siete in 5. Più il coniglio. Il coniglio lo teniamo o lo facciamo despawnare? No, per favore, lo tengo, lo sto accarezzando. C'hai bisogno di emotional support, Bunny? Sì, sì, sì. Ok. Lo vedete, è molto preoccupato, Adome. Quando uscite, io ho bisogno di averci la mappa davanti, siete sul vialone di Kainoe, che è il quartiere nord di Apeira, per quelli di voi che non sanno di cosa cazzo sto parlando, e è abbastanza trafficato. Vi colpisce la brezza carica di salsedine, ma fredda, cioè proprio umida e fredda. Specialmente colpisce Lieto e Adone. E ora si chiude il colletto e dice... Te, fa proprio più freddo di prima. Ah, che bello! Abbiamo Master, cambiato stagione. La chiesa era quella con i 5 pilastri e il cuoricino? No, quando è a nord della mappa. Era la chiesina, non si vede nemmeno perché è proprio un palazzo fra tanti nel quartiere okay. Nord. C'è okay, un okay. Cerchio con le sì, linee. Sì, ho capito qual è, sì, ho capito. Ok, siete lì. E... uscendo, quelli di voi che non l'avevano ancora vista vedono l'entrata della chiesa, che in realtà è nuova, è del 400, mentre il resto della chiesa, come vi avevo detto, era molto più antica. E c'è un botto di gente che va in giro per la città, e non so se è proprio l'ora di punta, comunque è il momento in cui la gente smonta i lavori giornalieri e va a casa, e la gente che può va a bere, eccetera, eccetera. E in effetti qualche giornale, qualche pagina per terra si trova, altrimenti c'è un negozietto che vende giornali, libri, eccetera, qui vicino. In ogni caso c'è un foglio, appunto, che riporta la data odierna come il 14 ottobre 1622. 8 giorni 14 ottobre? Sì, 14 ottobre 1622. Ed eravamo al 6 ottobre? Sì. Infatti eravamo al 6, quindi 8 giorni. 8 giorni, sì. Ho fatto giusto, Piani, cioè, dammi un po' di ispirazione. Bravissimo. Basic math, yes, yes. Ok. Tra l'altro, vi colpisce non solo questa cosa, ma il fatto che anche gli edifici a fianco alla cattedrale sembrano dominati dall'incuria, overgrown, le intercapedini, le varie parti sono piene di polvere, sono rovinate, eccetera. Come se tutte le cose lì vicine fossero avessero avuto questa sorte. E ci sono delle... ottobre, ma l'anno? 1622, l'anno è lo stesso. E inoltre ci sono delle persone davanti alla chiesa, tante persone, veramente tantissime, che sono un po' spaesate. Ok. Oh, raga, Dio. Mi date un secondo, devo andare a prendere il quadernato degli appunti, per favore. Ah, ok, vai. Tante informazioni. Vado là col piccone e colpisco tutti. Dobbiamo farmare punti, cazzo. Esatto. Il boss sarà da un momento all'altro. 5 punti per i bambini, 2 punti, 50 per gli anziani. Esatto. Vado a prendere... Indovina che alta per il carico. Tu. Vado a bere un attimo. Vai, vai. Cosa ne pensiamo, gang? Oh mio Dio. Oh, porco Dio, cane, Gesù, madre, Madonna Maria e tutto il resto della famiglia. Dola, anche Giuseppe, cane. Come cazzo lo risolvo adesso? Vuoi sapere qual è la parte peggiore, secondo me? Non hai manco i sonniferi. Ne vedremo delle belle. Ci arriviamo. Adone non pensa a questo dettaglio adesso. Non ci può. È vero. Ha altri problemi. Quanto è problematico il mio. Gli verrà in mente quando ormai sarà troppo tardi e le farmacie saranno chiuse. Quindi per adesso non è un problema per Adone. Gli speziali, pardon. Adone, no, adesso io ti chiedo una... Scusami, Pjanic, ma io, da quello che mi ricordo, si sono passati 8 giorni, Ren e meno di 8 giorni stava malissimo. Cioè, stava messa male molto tempo. In 5 giorni, tipo, se non... Sì. No, anzi, quattro. Era stata male molto presto. Sì, allora, Adone, una volta che appuriamo quanti giorni sono, vi dice... una nostra compagna, quella aspetta, che sta ci sei Ios? Ah, scusami, scusate. Okay. No, abbiamo iniziato adesso. Ok, e Adone una volta appurato che appunto sono passati 8 giorni, mi dice la nostra compagna che è stata peggio, lei, diciamo, i sintomi erano molto più gravi, si sono aggravati in 5 giorni, qua sono passati 8. Qua ne sono passati 8, però non escludo nemmeno che qualsiasi cosa sia successo in chiesa abbia anche rallentato l'eventuale sviluppo della malattia. Quindi potrebbe essere che io ci metta più tempo, come potrebbe essere che la magia solo è successo. Questo... vedete che muove un attimo la mano, poi la rimette in tasca e dice quello è un problema. Ok. Vi dicevo, intorno a voi ci sono un sacco di persone che sono super spaesate, non capiscono cosa sta succedendo intorno a loro. Io volevo chiedere che cosa hanno visto quelli vicino alla chiesa? Se è successo qualcosa di strano. Fermare la gente per strada? Sì, il primo che passa proprio. Tipo, stai bene? Tutto a posto? Ho visto il sole andare su e giù. Su e giù nel senso che è stato tutto il giro? Più volte. In tutta la città? Non lo so, cioè non mi sono mosso di qui. Nel cielo comunque. Sì. Scusi, mi permetto di farle una domanda. Che giorno è oggi per lei? È il 6 ottobre. Oh merda. Coincide con quello del giornale o no? Il giornale era? Il giornale che l'avete 14. Preso un pochino più in là, diciamo, era il 14. 14, ok. Quindi ha coinvolto tutta la zona attorno alla chiesa? Sembrerebbe di sì. Va bene, grazie, buon uomo. Pat pat, gli allungo un malapenny. Quest'uomo andrà in terapia. Sarà il primo uomo ad andare in terapia della storia. E mi avvicino di nuovo all'edicola o qualunque posto sia che vendi giornale. Ha visto qualcosa di strano nella chiesa? Ho visto che c'era un sacco di gente lì davanti negli ultimi giorni. Pensavo fosse qualche veglia. A volte lo fanno per... quando muore qualcuno di importante, però non, non mi interessa troppo. E si muovevano estremamente lentamente oppure... Beh, mi sembrava proprio fermi, come in preghiera. Per questi giorni... Quanti giorni? Non so, una settimana più o meno, questi riti durano così. Le stesse persone ferme lì davanti per una settimana? E adesso se erano le stesse persone non saprei dirlo. Belina aveva beccato lo spezzino proprio. Ci sono stati... Va bene. Poi Adone... scusami, leggendo il giornale ci sono annunci di persone scomparse? Allora, i giornali si focussano su una notizia. Ovvero? Ovvero che Oklika è una città fantasma. La popolazione non è stata decimata. Un decimo della popolazione è rimasto lì e il 90% no. L'Oklika, per quelli di voi che non sono ferrati con questa cosa, è la seconda città più popolosa del mondo. Era, fino a qualche giorno fa. Era. E a quanto pare quelli che potevano sono andati via e quelli che sono rimasti realisticamente sono morti. Ora la città è un... non mi viene il termine, però è un enclosure, cioè non si può entrare e non si può uscire. E questo non è servito quasi a niente, perché comunque la gente è uscita, e la piaga bronzea, come la chiamano i giornali adesso in modo molto... si è espansa in tutto l'impero, che al momento ha chiuso le frontiere per il resto del mondo, e per uscire ed entrare dall'impero bisogna fare un periodo di quarantena, di osservazione. Ci sono altre informazioni su questa piaga? Vabbè, comunque il giornale si paga, cioè non è che adesso stiamo qua... Venga, gli do. Oh, sì, gli lancio un altro manapenny addosso. Se offre lieto, offre lieto. Offre lieto. Esatto, facciamo offrire al miliardario. Esatto. Okay. Ne hai di soldi? Non ho preparato... Lontano dal libraio lì, ok? Sì. E esposto... sposto Adone proprio con la mano, senza fare neanche troppa fatica, suppongo. C'è modo e modo. Non lo fa in maniera educata. Questo è proprio il modo. Si sposta e poi si abbassa proprio, si piega tipo a mo' di cupola su di te e ti dice: questa cosa è opera vostra? Riguardo quello che c'è scritto sul canale. Allora, vostra... Prego, Adone, non voglio... Esatto. Sono un attimo perso, cos'è successo? Ti ha chiesto se questo casino che leggi sul giornale è opera vostra. Allora mi sento un po' intimidito, ma anche un po' scazzato. Dice, no, non è opera nostra, credo. Non... no. E poi guarda che anch'io mi trovo in questa situazione. Ho un... Com'è che si dice? Non una pena di morte. Ho la spada di cosa? Di Damocle. Esatto, perdendo la spada di Damocle che mi pende addosso. Proprio una roba che direbbe Adone. Sì, infatti, sì. C'è. Ho letteralmente la spada di Damocle che mi pende addosso. Non credo che sia il momento giusto di addossarmi la colpa. Comunque, sono vittima quanto le altre persone. E no, non dovrebbe essere colpa nostra. Miff prende il giornale da Nibel e cioè inizia a leggerlo. Ok, non entro troppo. Se vi interessa avere i dettagli ve li scrivo nei prossimi giorni / quando ce l'avrò voglia. Comunque la versione light del giornale del 14 ottobre è che c'è una rubrica adesso in cui tutti i giorni raccontano lo state of the art della piaga bronzea, dove si è espansa, eccetera. A quanto pare Oklika is no more, praticamente. La centrale di Oklika funziona in maniera automatica. Cosa voglia dire questa cosa non lo sa nessuno. Però va da sola e i manapenny vengono esportati in modi che non si capisce come. Di che colore sono i manapenny? Manapenny di Oklika da un bot da quando sono successi certi avvenimenti sono di colore blu scuro e sono gli unici manapenny di questo colore al mondo. Questo è il primo cioè non c'è scritto nei giornali questa cosa, questo dettaglio, però si sa. Somehow, noi lo sapevamo già. Mif, ora lo sa, l'ha letto nei giornali, Mif dovrebbe saperlo. Se Nibel ha mai letto un giornale negli ultimi 10 giorni, vabbè, escludendo questi 8 giorni di spazio, negli ultimi giorni ha letto i giornali. Fa leggere Nibel. Qualcuno pari gliel'ha letto. Pari li ho letti, dispari li ho letti. Uno, non li ho letti. Ok, vabbè, e c'è sta feature dei nuovi manapenny di Oclica. Cos'altro devo dire? E c'è l'aggiornamento su dove ci sono i focolai di Piaga Bronzea. Ora, è, cioè, lo sanno tutti che non è il problema di contrarre la malattia, perché alla fine la malattia muori. E sarebbe anche facile, cioè nel senso, c'è una condanna a morte, è finita. Il punto è che quando muori esplodi, tuo corpo va a fuoco, eccetera, e contagi le altre persone, si crede, non si capisce, ma se non le contagi ti trasformi in uno zombie meccanico che va ad uccidere materialmente le altre persone. E quindi il problema è che Oclica ora è infestata da questi automi. E ci sono dei focolai nell'impero, per il momento sono, come dire, limitati al territorio imperiale, dove ci sono delle comparse di queste creature che vengono arginate dall'esercito imperiale come può, e per il momento sembra che riescano a gestire la situazione. Poi è un impero, quindi non è detto che tutto quello che dicano sia vero. Questo è il riassunto del giornale. Nibel si tira su da Done e grugnisce un po', sentiva proprio diversi gutturali e si allontana un po', cioè, capisce immediatamente che non è il tipo di persona che riesce proprio fisicamente a chiedere scusa per qualcosa, e quindi semplicemente si allontana e distoglie lo sguardo. Però Adone vi dice: sentite, vi vorrei raccontare di più, però preferirei farlo in un luogo più privato, se voi avete un luogo dove possiamo andare. La chiesa? Sì, potrebbe aver senso. Io non sono del posto. E no. Si gira verso Nibel. Nessuno di noi è del posto, tranne Nibel. Lo è? Io sono l'ultimo. Ho venduto i miei possedimenti 2 anni fa. Quindi sei un vagabondo? Sì, dormo di locanda in locanda per strada, dove mi capita. Se percepisci che Adone si è trattenuto un pochino da dire barbone. Però... Ora... Diciamo che ero messo abbastanza bene. Ora prende la parola e dice: ci sarebbe la Santa Chiesa di Apeira? Dovrei avere dei contatti lì, non so quanto sia benvenuta, però possiamo provare. Beh, a questo punto preferisco andare alla chiesa di Ielos, almeno sappiamo che è un... C'era anche il vescovo che ci aspettava, no? Sì, forse andiamo a dirgli quanto tempo è stato. A meno che le altre persone, cioè le altre persone attorno non siano chiesa. Siete interessati magari alle edizioni dei giorni precedenti? Ah sì. Se ci fossero sarebbe ottimo. Infatti, cioè, a questo punto Mif, visto che penso che siamo appena fuori dal tizio che viene nei giornali, entra dentro e fa: mi scusi buon uomo, ma non è che... Esatto, ma non è che per caso le sono rimaste le edizioni vecchie? Giornali vecchi? Cosa devi fare? Imbiancare casa? Sì, è un problema. No, guarda, ti dà quello del 12. Dice: mi era avanzato questo, gli altri non li conservo. Credo ci sia un feticista dei giornali che abita in fondo alla via, potete chiedere a lui. Grazie mille, ci imbiancherò sicuramente casa. Grazie. È il giornale di 2 giorni fa, a questo punto. E c'è sempre il bollettino con come si è espansa la roba, c'è il nome delle città, dei quartieri, eccetera, dove ci sono stati dei piccoli focolai, le nuove norme che erano state stabilite per quel giorno, e in realtà il 12 sembrava andare bene. cioè sembrava fosse contenuta. Il 14, che è oggi, sembra comunque essere contenuta, ma c'è almeno un focolaio fuori dall'impero. Dove? Una piccola città a nord-est del regno Sefino. Ok. 40 abitanti. E realisticamente quella città l'hanno esclusa dal mondo. Cioè era un villaggio più che una città. Ah, il signore mi ha detto che c'è qualcuno fanatico collezionista di giornali in fondo alla via. Lo conosco, già ne ho sentito parlare. Ti dice niente sta cosa qua? Magari se volete possiamo fare un salto da lui, se no possiamo tranquillamente tornare. No, andiamo alla chiesa lui e poi andiamo alla chiesa. Ok. No, ci sta. Ok, andate da lui quindi. Percorrete la strada che va in quella direzione, quindi una dozzina di numeri civici più avanti. Datemi un attimo che sto cercando la scheda di sto personaggio. Ok. Dovrebbe essere questo. Tengo d'occhio attorno nel frattempo che ci dirigiamo lì. Il posto è un grande palazzone. 6 piani, 7 piani, che comunque sono tanti in quest'epoca. Di quelli che si affitta, cioè affitta camere, diciamo. Ogni parte di questo edificio viene affittata per periodi, eccetera, eccetera. C'è una targa all'esterno e in genere si fa largo impiego dell'alchimia per aggiustare la struttura in base alle richieste di chi ci va a vivere. Quindi se ci va una persona singola si costruisce un monolocale, se ci va a vivere una famiglia per un periodo si costruisce una piccola appartamento per loro, eccetera, eccetera. Questo è il genere di posti dove se lo colpisce un fulmine è finita, muoiono tutti. Però costa poco e la gente se ne fa una ragione, cioè nel senso ogni posto c'ha i suoi rischi, ecco. Vi hanno detto che abita qua, non vi hanno detto né come si chiama né dove né altro. C'è una receptionist, è una parola sbagliata, una portinaia, diciamo, all'entrata. Parliamo con lei? Sì, vai. Sì, ok. Salve, buonasera. Ci hanno detto... Sì? Appartamento per 6? 5? No, grazie, no. Ci hanno detto che qui viveva... come cazzo si chiama quelli che vendono i giornali? Ah, parli di Iona. Sì, è un coinquilino dell'ultimo piano che colleziona i giornali e mi manda tutti i giorni a prenderlo. Ecco, si potrebbe entrare in contatto con questo signore? Signore? Con questa persona? Lo chiamo e vi faccio sapere se è interessato. Grazie. E vedete che inizia a fare le scale. L'edificio è carino e accogliente, ma ha il difetto di essere interamente fatto con l'alchimia. Per cui, per quelli di voi che ci tengono a queste cose, è una merda. Sto parlando di Adone. Sì, Adone in verità questa cosa non ci fa caso, perché lo vedete che sta pensando e che anzi dalla sua borsa ha tirato fuori un diario che sta sfogliando. E vedete che sta tipo un po' sussurrando fra sé, se ogni tanto guarda al cielo pensando... Beh, ho avuto una vita lunga, piena di soddisfazioni. Che bello! Mio marito gabbia in prigione, io che muoio qua esplodendo, Cristo. Ora ti dà una pacca sulla spalla e ti dice: non ti preoccupare, Ricard, stai tranquillo che faremo tutto il possibile per aiutarti. Ricardo guarda e dice: ascolta, basta chiamarmi Ricard, chiamo Adone. E no, non credo che voi riusciate a fare niente. C'è un modo per curarmi, ma è difficile. Vedete, proprio sta soffrendo in questo momento. Sono curiosa di sapere qual è il modo per curarti così difficile. E ve lo spiego appena siamo da soli. Ok. E mi incuriosisce di più il fatto che voi abbiate trovato una cura per questa cosa e siate scappati dalla città? Non dovrebbero trattarvi come eroi? Non abbiamo esattamente trovato una cura. Uh-huh. È una cura, sì, però per una sola volta, e diciamo che è più uno scambio. Era più uno scambio quello che abbiamo fatto. Con chi? Si scambia... Lo direbbe un patto. Sì. Però... If you catch my fucking drift. Sì. She did. Credo okay. Che abbia capito dietro. Grazie. Tanto avete ancora qualche minuto da sprecare intanto sì. Che la tipa ritorna. Ma lei è proprio... Sì, piani a piedi. Sì, esatto. Ritorno. Vuole. Ma... Tu pensi che sia una malattia? No. Ok. Nel senso, credo sia una malattia... di... natura... divina? Diabolica? Vuoi dire una maledizione? Ad ora ci penso un attimo. Ha effettivamente i tratti di una maledizione? Beh, te lo dico subito. Lei fa tipo una roba del genere e attiva la sua passiva da Mystic, in cui rileva la presenza di malattie, di curses, e dice, no, cioè sì, sei maledetto, ma non nel dito. Sì, infatti non... Sì, non è una maledizione, questo... Altre... Che storia, lo sapevi che era maledetto? Ce l'ho con Lieto, ovviamente. È Lieto? Sì. Lo sapeva Lieto che era maledetto? Me lo ricordo. Ha fatto una testa assieme. Forse no. Forse no, forse no. No, Lieto non lo sapeva. Lieto non era a conoscenza di questa cosa. Beh, è maledetto. Grazie. In cosa comporta? Sai qual è la maledizione? Ah, io no. Sì. Adone. Io sì, so qual è. Qua si ricorda dei sonniferi, Pianish. Secondo me è un buon momento per ricordarselo. E Adone dice... E poi vede che si illumina... Cazzo! No, mi serve uno speciale. Infatti, perché poi vedi che Furga fra la... Dice, merda. Li ho finiti. Una bella busta vuota. Sì, finito che... cosa? Myth Bombastic Side-Eye, tipo... Di cos'altro mi devo preoccupare? Feora, rompere il cazzo da Adone. Esatto. La maledizione che la nostra caro ha tenuto tanto, cioè ha tenuto così tanto a sbattere ai 420, implica degli incubi... pesanti durante incubi? Vedi che Myth, se prima era tipo con le braccia incrociate che si stava rompendo il cazzo, adesso si è avvicinata un pochino di più ed è evidentemente interessata, ok? Non si è avvicinata a invadere il tuo spazio vitale, però si è un attimino rizzata, come per dire, incubi? Sì, Adone rimette dentro... Cos'è? Ma io le prendo in polvere, in liquido? Cosa, in che forma li prendo? No, era tipo... un'erba triturata, quindi cioè una erbe e altre robe triturate. Metto giù il mio vasetto oggettivamente. Sì, sì. Poi se lo bevi con l'acqua, cioè prendi dell'acqua insieme. E dice non è il tabacco, no. Sì, non è una cosa che tendo a dividere, ma vista la situazione in cui sono, sì, ho degli incubi e mi servono dei sonniferi specifici per mettermi in mira. Conosco degli speciali in zona? Sì, sì, sì. Non troppo lontani. Ce n'è uno molto famoso. Ce n'è uno losco dal quale preferiresti non andare perché chiaramente ha a che fare con la mafia. Quindi c'hai... se dovessi aver bisogno conosco un paio di posti. Sì, in verità mi servirebbe fare il rifornimento della mia... del mio sonnifero. Ok, cosa preferite fare? Separarvi o fare prima questa cosa e poi quell'altra? E ta- cioè, Adone a questo punto chiede: pensi che lo speziale chiuda fra poco? Ottima domanda. Master, penso che chiuda tra poco. Non ne hai idea. Sta facendo sera, quindi può darsi che come le altre attività non rimanga tanto aperto. Se non vi dispiace, si dice tutti voi, io ho urgenza di andare dello speziale. Vuoi sentire cosa ha da dire il tizio dei giornali? A me non interessa particolarmente, se hai bisogno posso andare io dello speziale. Sì, beh, verrei con te. Potete riferirmi voi dopo quello che vi dice il signore dei giornali. Miffin, tutto questo che fa? Miffin, tutto questo ti sta guardando. In realtà è molto tranquilla, molto pacata. Però vedi che c'è, ha la testa leggermente inclinata e fa... Sai, Adone, io studio i sogni. Parliamo dopo, se ti va. Anche mi interessano di più i medicinali, quindi vado. Ah, ok. Beh, allora ne parliamo dopo, Miff. Ciao, a dopo. Buona fortuna. Loro tre. Fate attenzione. Voi due rimanete. Dove... Sì. Dove ci ritroviamo? Qua o alla chiesa? Alla chiesa. Alla chiesa. Okay. Adone e Miff che lo dicono assieme, per me, caro. Esatto. Bello. Ok, vi lascio tutti sul canale, secondo me non è una roba così... Okay. E... Vi va bene se faccio prima i giornali? Sì, certo, immaginavo che avresti fatto prima i giornali. Perfetto. Dopo pochissimi minuti che escono i tre, scende un ragazzo, ci avrà l'età di Lieto. Non ho una descrizione di quest'uomo. Quindi un ragazzo, ventenne circa, sbarbato. Petto nudo con i capelli lunghi e... No, mi sembra eccessivo farlo identico a me. Tipico uomo del greco, diciamo, quindi un naso importante, tratti un po' squadrati, pelle non chiarissima, ma neanche black. Non muscolosissimo, a differenza delle persone che avete conosciuto in sto posto, abbastanza snello. E indossa la casacca della Zenith con la spilla della Zenith Auster, che fa da specchio a Lieto, che è il contrario, con la casacca della Zenith con la spilla della Zenith High. Il ragazzo vi vede, non vi ha mai visti prima, però nota la spilletta e dice: ah, un collega, sono Iona, come vi posso aiutare? Biff guarda Lieto e fa: vuoi parlare tu? Parlo io? Ci servirebbero... eravamo qua per i giornali noi, giusto? Sì. Sì. Vogliamo i giornali veri? Ok, sì, sì. Per essere... no, è che non so mai. Avresti per caso i giornali degli ultimi 10 giorni? Sì, io... tengo la collezione di tutti i giornali che escono. Come mai questa cosa curiosa? Mi piace avere a disposizione tutte le informazioni che posso avere, sono uno studioso. Cosa ne pensi degli ultimi avvenimenti? Beh, si parla praticamente solo della piaga dell'impero, quindi in realtà non le cose più interessanti del mondo. Ci servirebbero i giornali dopo il 6 ottobre. Non ho capito i vostri nomi. Ah, perdonaci. Miff, lui è lì. vi stringe la mano, cerca di stringerla più forte che può, ma non ha tanta forza, quindi arriva quella stretta di mano che c'è impegno, ma non fa male. Mi sto attraccando. Ok, e venite di sopra? Possiamo? Sì, per me. Siete anche voi studiosi, no? Vedo che hai la spilla... Parla con Lia. Vedo che hai la spilla della Zanitai. Sì, sono laureato poco tempo fa. Ora rollo un D10 per mentire. No, ehi, nel vecchio... Ti crede. Non sei bullshit, c'hai 20 anni. Te ne manca almeno un altro per riuscire a laurearti. Oh. E lui ci crede, però. Beh, lui sì che mi piace. Mi sono dimenticato cosa stavamo facendo. Ti chiede, sì, Zenitai, quindi sei in fuga dalla piaga? Sì, almeno sì, direi di sì. Capisco. Non ho sentito parlare della piaga da queste parti, si gatta tipo. Eh sì, per fortuna da noi non è ancora arrivato niente. Venite, intanto saliamo le scale. Sono 6 cazzo di piani a piedi, quindi ci vorrà un po'. Vedete presente le scene di The Big Bang Theory che parlano mentre fanno le scale? Quella cosa lì. E quindi voi di cosa vi occupate? Io magia ontica, principalmente. Stregoneria. Guarda non benissimo, ed è tipo... Io lo guardo altrettanto male. Magia ontica alla Zenitai. Magia ontica alla Zenitai. Volevi entrare nell'esercito? Sì, principalmente sì. I piani, vanno e vengono. E tu invece? Guarda lì, tu poi lo riguarda... Fa... Com'è? Yona? Yona. Dirlo, scusate. Yona. Lavoro per l'azienda di Kit. Non sei una ricercatrice? Sì. Sì, nel tempo perso, sì. Ed è per questo che sono qui. Ah, per te... Mi occupo di stregonerie. Ah, il mio migliore amico si occupa di stregonerie. Stregoneria, magia naturale, insomma. Ah, interessante. Solita roba. Sì, da queste parti è abbastanza comune, in realtà. Io preferisco la biomanzia. La what now? È una branca nuova, non ha ancora una scuola ad essa dedicata, ma mescola magia naturale e necromanzia. Sei uno di quelli che si ammazza, ho capito. No, non sono un necromante. Ammazzi per metà, ti tagli le vene e poi le chiudi. E funziona. Sono interessato agli utilizzi della necromanzia che esulano dal avere a che fare con i morti. Quindi l'esatto contrario di un necromante. Interessante, rivoluzionario quasi. Sì, il mio professore è un... è il primo grande esponente di questa materia. E... arrivate, comunque fate chit chatter, roba del genere, apre con la sua chiave la porta ed è la casa di un universitario, cioè è un disastro, è veramente un disastro. Ci sono oggetti dove non c'è lo spazio materiale per metterci, ci sono colonne di libri, di robe. L'unica cosa che è in un ordine autistico maniacale è la sezione del suo studio in cui sono contenuti i giornali. Tra l'altro la casa è un trilocale, cioè è enorme per un tizio solo che vive in un posto del genere. E i giornali sono organizzati in ordine cronologico e si vede che lui sceglie solamente 2 o 3 testate, cioè non prende qualunque giornale. Volevate gli ultimi quanti giorni, avete detto? Dopo il 6 ottobre, esatto. Allora, qua c'è... sono giornali di Apeira, tieni, e te li dai in mano. E ok, inizio li prendo. Invece qua ci sono quelli imperiali, mi piace tenerli perché a volte hanno un insight diverso. E ti prendi gli altri 10 e li dai in mano a Lieto. Lieto guarda, qualcuno direbbe propagandistico. Un pochino, però è bello vedere le opinioni delle altre persone, anche se sbagliate. Sono tutti nelle sleeve, nei raccoglitori. Sì, sì, sì, sì, sono organizzati in maniera maniacale. Sono come dei fumetti della Marvel degli anni 50 oggi. Nelle slab certificati non, 10 non sono di plastica, hanno proprio delle copertine di cuoio, okay, come fossero libri. Possiamo prenderli in prestito? Preferirei di no, non ho una doppia copia di queste cose. Potete leggerli qua. Okay. Non è un problema, ottimo. Grazie. Grazie. Se cercate qualcosa in particolare vi posso aiutare. No, soltanto i giornali per... più curiosità. Sai per caso se in questi giornali c'è qualche notizia riguardo a crimine organizzato nelle zone? Allora, mi sembra che qualche settimana fa c'erano stati degli omicidi ad Oclica. Più di recente qualche arresto per traffico di sostanze. No, niente di grande o molto rilevante. Come mai? Cercavate informazioni sulla Corona Nera? Mi piace tenermi informato, non sa mai che cosa vadano a fare quelli. Vedete che lui si siede e vi lascia, cioè lui sta studiando dell'altro, ha dei manuali di magia naturale, roba del genere, e vi tiene d'occhio, però si sta facendo gli affari suoi fondamentalmente. Voi leggete i giornali, immagino? Sì. Cioè, ditemi voi. Sì, sì. Perfetto, cambio scena. Dall'altro lato, gli altri tre stanno andando verso lo speziale. Vai da quello losco o da quello pulito? Quello pulito. Perfetto. È sulla via principale. Arrivate davanti e c'è il padrone del coso che lo sta chiudendo. Eddie. Scusatemi, cosa? Siamo alla tua scena. Scusatemi, non ho attimo di fare. Ok. Ok. Alzo la mano e dico... Un uomo ancora un attimo per noi. Allora, è una donna. Capelli rossi, capelli rossi, una treccia legata, giunonica, cioè stazza media, seno importante, eccetera, pelle leggermente scura come c'hanno tutti da queste parti. Ogni volta che parli di una donna è la seconda cosa che viene menzionata. Esatto. E mi piace, non è assolutamente un tipo. Primo che sono capelli. Vabbè, basta. Ti guarda. Dice, starei chiudendo. Sarebbe estremamente importante, un po' un'emergenza. Cioè? Avrei bisogno di questo e gli porgo subito la ricetta del però. La donna stava chiudendo la porta a chiave e mette la chiave in tasca, prende la ricetta. Che lingua è scritto? Ah, giusto. Che lingua è l'impero, non so. Sì. Sì, sì, ma non so il nome della lingua, quindi c'è... Ok, e glielo traduco e l'elenco di indi. Lei ti guarda stranita e dice, cosa cazzo ci devi fare? Giustamente, dice, è un sonnifero. Un per cavalli, per che cosa? Io guardo ora e dico, puoi intervenire? Sì, però credo che sia più divertente vederli. Perché? Non ho capito. Ah, ora, scusami. Mi ero dimenticato che ora fosse... Sì. Allora dice... chi sono per me qui sonniferi? Mi spiace. Già. Guarda, starei chiudendo. Puoi passare domani? Ti preparo quello che ti serve. Sarebbe veramente urgente per stanotte. Faccio... Rischio di non dormire la notte. Sono appena arrivato da un viaggio un po'. Più che altro... Questa cosa qua che hai chiamato in quel modo lì, Non ce l'ho al momento. È un'erba che boh, non tengo di solito. Dovrei andare a chiedere a qualcuno se me la può procurare. Capisco, e non c'è un altro speziale che potrebbe farlo? Di sicuro non ti dirò di andare dai miei. Comprensibile. Già. Beh, Competitors. se riuscisse a fare questa ricetta sarebbe ottimo. Ha bisogno che gliela lascio? No, credo di ricordarmela, è strana. Sì, domani riuscirò ad averla. Ok, grazie mille. Io a questo punto mi giro Qualcosa di verso. più leggero Sì, dei Per il sonniferi momento. dovrei averli. Pensi che ti possano andare bene per una notte? Non credo, ma meglio di niente. E poi uso. Se cazzo Every Talk mi vede, giusto? Ok, perché volevo parlare telepaticamente a Nibel. Vabbè, mi giro verso Nibel e faccio. Cioè. Non possiamo andare da un altro speziale. Ce ne sarebbe uno, però diciamo che è un business sottobanco. A domani comunque, e la signora chiude e se ne va. Scusi, buona serata. E Adonis si gira e dice, potresti portarmi da lui? Se è proprio necessario possiamo Sì, provare, lo è. però diciamo che è gente abbastanza losca, potrebbe essere un rischio. Speziale, quanto. Quanto Più che male potrebbe. speziale li chiamerei spacciatori o qualcosa del genere. Proprio come a casa! Vedi che Adone effettivamente ci sta pensando, però lo vedi proprio scuote la testa e dice no, questa cosa è troppo importante. Ho bisogno di questo sonno. Va bene, si può provare. Non vedo l'ora di vedere la realtà dei vicoli della vostra città. Deve essere un'esperienza veramente affascinante. Tu hai studiato necromanzia? Un Cioè, pochino. Non si vede, tantissimo. Non si tantissimo. nota. Più teurgia. Ok. Sì. Il tizio che conosci ha il negozio dall'altro lato della città, però abita qua. Quindi a quest'ora sarà a casa o comunque starà per tornare. E conosci proprio il quartiere dove vive. Il quartiere è Kainoe, diciamo il block dove vive, perché era il vicino di casa del. Non mi ricordo come si chiama, Schiliseto qualcosa. Quello che lavorava con te, quello che ti ha rubato i soldi, diciamola com'è. Perfetto. Sì. Ok. Quindi da quelle parti lì. Adelfo. E Allora, li guido verso casa sua, non penso che sia il caso adesso di allontanarci così tanto per andare al negozio, no, soprattutto se poi magari è chiuso, quindi mi dirigo verso casa sua. perfetto. Lo seguo. Ora pure in silenzio. E hai il coniglio in una mano. Sì, vedi che Adone sta aspettando un po' più forte, vedi che gli tiro la testa, proprio Coniglio. così, sì. Finiamo queste due scene e poi se volete chiudiamo, che comunque l'ora mi sembra giusta, giusto? Io Benissimo. vorrei andare avanti, ma. Come vuoi, io di solito quando faccio la sessione sto anche fino alle 2, figurati. Volendo anch'io, però Io domani non lavoro. non lavori? Vabbè, vediamo che tempo Andiamo arriviamo. avanti un Sì, pochino, esatto. Era vediamo. per sapere se dovevo chiudere in fretta o no. No, no, sono ipato. Bene, allora. Mi serve la musica. E comunque proseguite lungo queste viuzze, perché sono tutti i lati secondari, nascosti della città, della città nuova. E arrivo. Oh cazzo, mi sentite? Ok, niente. sarà inchiodato il computer. Strano. Ed effettivamente è un luogo malfamato, cioè si vede che è proprio un postaccio frequentato da brutta gente. Per questa parità la musica di Omori, che è tipico musica da postaccio. E gli edifici, almeno all'esterno, sono molto rovinati. Proprio c'è una grave incuria, ci sono le crepe nei muri, i vetri rotti, le finestre sbarrate. E l'edificio di Adelfo l'hai sorpassato, e poco più avanti c'è questa palazzina di due piani, cioè proprio una casa piccola, costruita non rispettando le norme tra altre due case. Ovvero, non c'è lo spazio. Non c'è lo spazio per passare comodamente tra, cioè dovresti passare di lato tra le due case. Era solo questo. Quando passo davanti alla casa di Adelfo, c'ha visibilmente una faccia abbastanza irritata. La vecchia casa, ovviamente. Cioè, è sparito, quindi non sai dove sia, però ci abitava qua. Sì, certo. Però se lo ricorda. Ok. Non particolarmente in maniera piacevole. Il portone di questa casa ha un grosso maniglione rotondo, che sembra quegli affari che si mettono alle mucche. E nient'altro, non ha un metodo per i septum per le mucche. Sì, esatto. Mi sono sentito preso in causa, sarò onesto. Non so perché, Eddie. Ma è un puro caso. Se mi senti in causa, septum theory. Batto il battacchio. Dun, dun, dun. Sentite del rustling. Si apre una finestrella sulla porta e vedi due occhi dall'altro lato, neri, che dicono con un filo di voce e nel dialetto locale: che volete? Sono Nibel, se mi conosce. Chiude, apre, chiude la finestrella, apre la porta. È un uomo ben messo, 1,80 m, però cioè non rivaleggia con Nibel. Vestito di nero, con un lungo abito nero, e dice: come posso aiutarti? Ho bisogno di una cosa. Mi giro verso Adone. E mi avvicino a lui e in sussurro: prendi il meno possibile, il resto lo prendiamo nell'altro negozio domani. D'accordo. Adone fa un attimo. E gli faccio spazio. Sì, Adone fa un attimo un passo avanti, dice: ho bisogno di alcuni ingredienti per fare un sonnifero. Ci devi ammazzare qualcuno? No, è per me. E gli elenco gli ingredienti. L'uomo fa uno smirk, chiaramente ti guarda dall'alto in basso, cioè proprio ti sta trattando come se fossi una pezza da piedi, e dice: e quanto te ne serve? E dico la quantità minima per avere una dose. 20 monete, 20 mana penny. Tutta quella roba lì. Cioè, lo penso io, cioè... Non so perché avrete sta cosa. Si parla di soldi e cazzo, le cose diventano serissime. Non costa così tanto! No, domanda, non costa così tanto fare quella roba. A parte che dovresti rollare di economia. Ce l'hai economia? Quanto c'hai? C'hai più 2, rolla, 10 più 2. Faccio una adesso, look at me. 10! No, 2 monete è già un furto. Cioè è già una roba che ti stanno inculando. Per una dose. Guarda e dice: 10 monete. Ma io devo andare a recuperare questi materiali in giro per il mondo. Non è che posso regalarli al primo straniero che viene a bussare alla mia porta. Materiali che non ti costa così tanto importare e non ti costa così tanto trovare. Beh, per me puoi scegliere. o paghi 20 monete o stai senza. 10 monete mi sembra una buona proposta. Vi guarda entrambi e dice: dove l'hai recuperato questo? Siamo conosciuti per caso. Ti ho portato un cliente, no? Sì, un cliente che non conosce le regole del gioco. È un cliente che potrebbe diventare fisso. Ah, perché viene a vivere qua? Sicuramente rimarrò. Salve, piacere, Ora. Sono anch'io di passaggio qua e sono molto interessata a capire come funziona questa attività. Cioè, se ho capito bene, non è un negozio. Questa è casa tua, giusto? E questa chi è? Ora. Mi sono appena presentata un secondo fa, sì, sono io, salve. No, è per dire che credo sia illegale vendere sotto banco, eccetera. E se non sbaglio, c'è la polizia in questa città, no? Quindi se noi andiamo a chiamare la polizia, non sarebbe una bella cosa per voi, giusto? Il tizio è a metà tra sbiancato e non capisce se questo la sta prendendo per il culo e la sta fissando. Io guardo un attimo Ora e poi riguardo il tizio. Beh, sarebbe un problema se la polizia passasse di qua. Dammi 10 monete e vattene. Gli do 10 monete. Va a prendere le sue cose e ti dà un sacchetto e chiude la porta. Ma c'è tutto nel sacchetto? Rolla un di 10. Dio cane. No, pezzo di merda. Posso rollare anch'io comunque? Cioè... Sì, rolla anche lei allora. Rolla anche Ora. Particolarmente. Che poi cosa stiamo rollando? Culo? No, è... Come cazzo è natura? No. Natura? Sì. Che danno un attimo. Hai più 2, quindi tu hai fatto 6. Lei ha fatto 7. Natura era cultura. Cultura, sì. E hai più 2. Vai, cari. Mi apre, ok. Il merda t'ha messo delle robe diverse che costano meno. Ma portano alla a fare la stessa cosa? Non sai, sai solo che si vede che non sono le cose che t'aveva detto. Che più che altro, aspetta, ti fermo. Doveva dargli dei componenti per fare un sonnifero. E una delle cose che c'è in mezzo è tipo rosmarino. Ok. Il cancello è di metallo o è di legno? È di legno. Con la finestrella di metallo. Tiro un calcio al. Di 10. Oh, questo è sfondare. Dovrebbe esserci proprio. No, non c'è qua. C'è. Sollevare più 7. La porta va giù, o meglio, la porta si spacca, i cardini e la finestrella reggono, però hai fatto breccia all'interno. Dentro basso sono... la testa, entro dentro. Dentro ci sono il tizio di prima e altri due tizi, tutti vestiti di nero, che sentendo il rumore, eccetera, hanno già imbracciato le loro armi. Entro dentro. Buonasera. Credo che non ci siamo capiti del tutto. Uno, con la testa. Uno di loro ha un'arma da fuoco, una pistola a manapenny. Gli altri due hanno delle armi di metallo, una lancia e un'ascia. E il tizio che aveva aperto ha un'ascia. Ora dice: in realtà sono abbastanza bravo a combattere, ma li ammazziamo? Cosa stiamo per fare? Non lo so. Facciamo andare quello per il quale abbiamo pagato. Evviva! E pausiamo questa scena, andiamo a quell'altra. Facciamo il cliffhanger. No. Avete studiato? Facciamo tutto quello che è nostro. Avete studiato per 20 minuti, una mezz'oretta, i giornali. Oltre al... cioè, uno di voi si è preso quelli di propaganda imperiale, che in realtà sono molto dettagliati nelle robe che non riguardano i cazzi dell'impero. Cioè... esattamente. Sì, ci sono un sacco di informazioni dettagliatissime su le invasioni di mostri e di altre robe ai confini del mondo, eccetera. Però sull'impero si dice che l'impero è una figata. E sì, e gli eventi di Oclica sono minimizzati all'ennesima potenza. E c'è scritto che praticamente è un raffreddore, sta cosa. Che però è meglio non andare ad Oclica perché non c'è spazio negli ospedali, quindi se tutti prendono il raffreddore poi è un problema. Questo è come la descrivono nei giornali di propaganda. Gli altri giornali invece raccontano le cose come stanno, cioè che sta morendo la popolazione come mosche, il centro di Oclica è infestato da mostri meccanici che si stanno massacrando, cioè che stanno massacrando qualunque cosa si muova, animali, umani, tutto. E poi ci sono altre notizie, ma appunto cose scollegate, quindi eventi proprio di Apeira, la festa del tizio, il centenario di un certo evento e cose del genere. Se cercate qualcosa in particolare, ditemelo e vi dico se c'è, se non c'è e quanta roba c'è. E voi avete riferimenti, se possibili, alla mia cara madre? Allora, Promezia appartenente alla Corona Nera viene menzionata solo in un giornale del 3 ottobre, 4 ottobre, quindi prima del timeskip, diciamo, e nel quale si dice che a quanto pare era coinvolta in un regolamento di conti che ha comportato l'uccisione di alcune persone. Dopo di quello non c'è più nessuna menzione di una persona con quel nome o qualcosa che ti faccia capire che la riguardi. Okay. E neanche riguardo la mano nera? Cioè, la corona nera viene menzionata... Mi fa ridere perché mano nera era il nome originale di sta roba qua, che tu non hai mai sentito però. Vabbè, no, ci sono alcuni appunto atti terroristici e robe del genere, robe che in realtà succedono nel mondo in cui ci troviamo, piccole cose, cioè uno o due morti, non robe drammatiche, e nei quali si dice probabilmente c'entra la corona nera. Ok, ok. Però in modo generico, quindi senza fare nomi e cognomi. Ok. Faccio capire. C'è qualcosa sui medikit? Qualche novità? Allora, tu mi stai chiedendo se c'è un appello di Moira Standout sulla sua figlia scomparsa? C'è un appello risalente a 6 giorni fa, cioè il giorno in cui avresti dovuto scrivere e comunque farti sentire, e non ti sei fatta sentire, e quindi sì. A quanto pare è andata a parlare di persona con qualcuno, con Brooke, per chiedergli cosa ne ha fatto di sua figlia. La cosa è stata registrata perché l'ha fatto durante un comizio, cioè durante un evento pubblico. L'ha interrotto per prenderlo per il colletto e dirgli... Non è finita bene, però non ci sono stati né morti né arrestati. Che fine ha fatto? Mia madre l'hanno riportata a casa. Ah, beh, dai, è andata bene. Ah. Nessuna regola rotta. Unoso. Ok. E niente, visto se prima si era messa a ridere sulle prime righe, dopo si fa tipo livida e fa avete una carta e penna? Sì, quanta ne vuoi? Alchemica, normale? Per spedire una lettera. Ah, allora con l'alchemica. E ti dà un foglio di carta perfetto. Ok, lo prende e cioè velocemente scrive a sua madre, scrive che sta bene. Scuse, penso. Sì, sì. Il ragazzo, vedendoti fare un array di emozioni, ti chiede: ma tutto a posto? Sì, sì. A postissimo. A postissimo. Ok. No. Sto semplicemente scrivendo a mia madre. Chiaramente le prime parole sono: a Moira Stetot. E dici che lui lo nota? Può darsi, non penso che il MIF lo nasconda. Hai letto di tua madre in un giornale? Il MIF lo guarda come tipo un cerbiatto quando gli fanno i fanali della macchina, quindi si frizza. E fa... guarda dietro e... sì. Ma non guardare anche la mia sul giornale. Siete persone famose. No. No. Volta mi fa mai in panico. Sì, sì, ho letto delle... A quanto pare ho preso molto da lei. Incredibilmente. Vedi che lui chiude gli occhi, si schiaccia un attimo le tempie e dice: sei l'erede dell'azienda Medikit? Ah, a questo punto mi fa tipo here we go again. Sì, sì, esatto. Sta castando una spell su di se stesso il ragazzo e dice: per caso conosci un professore della Zenith Auster? Quale? Il suo nome è Patroklos. Ataraxia. Sì. Sì. Lo conosco. Conoscevo. Ricordi che ti ho detto che il mio migliore amico studia stregoneria e magia naturale? Sì. È suo figlio. Il sorriso che nervo che aveva Biff si tramuta in orrore. Potrei sbagliare, ma mi sa che lo conosci. Biff si ricorda dei due figli, vero? Sì. Direi proprio di sì. Quale dei due? E... Deimos. Conosci anche l'altro fratello? Credo sia entrato nell'esercito. Ah. Oddio, forse ha fatto una brutta fine con gli ultimi eventi di Oclica. Non se n'è più saputo nulla. Biff ritorna un fantasma a scrivere la lettera a sua madre, consapevole che potrebbe sotterrarsi. Questo momento, cioè sono al sesto piano, vorrebbe andare a meno 6. Sei no, era per dire che vuoi incontrare Deimos? Posso organizzare un incontro? Strano che siete venuti a casa mia, vero? Cioè, deve essere proprio piccolo il mondo. Sì, è veramente piccolo il mondo e si gira verso dietro. Io non so di cosa stai parlando. Io non credo nel destino, ovviamente, però... Strano, strano. Guarda, se hai un'altra carta da lettera, devo scrivere qualcosa anche io. Sì, quante ne vuoi, te la passo. Smith ritorna un attimo tra sé e sé, si ricorda che hanno bisogno di informazioni. Quindi fa aiuto. Hai detto che è uno studente, giusto? Sì. Ha accesso alle biblioteche? Sì. Non solo. La sua relatrice è The Big Boss. Ah, cazzo, ce l'ho il nome da qualche parte. I have it. La tizia, sì. Cazzo, chissà dov'è che ce l'ho. Alexandra Mufelos? Proprio lei. Conosce anche lei? No. Ho sentito parlare del fatto che avevo contatto Patroclus. Molto famosa lei comunque. Sì. Una vera innovatrice. Forse la miglior strega che ci sia al mondo oggi. Tipo lo guarda per un lungo momento e fa. Forse a riallacciare i contatti con Deimos può essere utile. Noi ci vediamo sempre. Salute. Per il tè. Pomeridiano. Se volete, domani. Nel cortile dell'università c'è un caffè. Ai tavoli fuori. Comincia a essere freddo, ma per il momento lo tolleriamo. Va bene. Probabilmente saremo anche altra gente. È un problema? Non lo so, non penso. Il posto ce n'è per tutti. Perfetto. Grazie mille, Iona. E gli porge la mano. Te la stringe. Finisce di scrivere una lettera a sua madre, sperando di non essere diseredata. Ma vi fermate a cena ormai? No, ci abbiamo da fare. Non vi trattengo, ovviamente. Dobbiamo ricongiungerci appunto con i miei amici. Avete finito con i giornali? Li posso... Sì, grazie. Sì, direi di sì. Vedete, io riesco ad andare a... È stato un piacere avere a che fare con voi e... Ci vediamo domani! Sapete come arrivare, vedo che non siete di qua, però sapete come arrivare a... alla Zenith. Non dovrebbero esserci problemi. Abbiamo... Sì, dovremmo sapere dove è la strada. Ok. Sì, saremo lì per il pomeriggio. Perfetto. E a voi. State scendendo le scale solo voi due. Cosa vi dite? Se dite qualcosa oppure scendete le scale in silenzio? Insomma... I tuoi fanno i medici, te? Yeah. Vedi che Biff ha la morte, cioè ha visto Doughty, nel senso... Alta, elevatissima! Altissima! e quindi fa delle domande che vuoi farmi, fammele. Tanto ormai. Non hai buoni rapporti con la famiglia o è solo per la notorietà? Notorietà in realtà. Poi mia madre è particolare. A chi lo dici? Non ce l'ho fatto! Ci siamo trovati! I personaggi si sono trovati! This is racist! Esatto. E se non vi dite altro, vado agli altri. Ah, vabbè. Sì, no, niente. No, siamo già visti. Sì. Lo sa già chi è mia madre. Cioè... certo, certo che lo sa. No, non lo sa chi è. Come non lo sa chi è? Ah, sai chi è? Sai no. Cosa... Hai visto Promezia, ma non sai cosa fa Promezia. Ha visto Pronoe. Pronoe, scusa. Esatto, vero. Visto Pronoe. quindi mi fa... Hai detto che anche la tua era sui giornali. Sì. Infatti adesso le scrivo com'è andato il lavoro. Ah. Il cellulare. Ciao mamma. Sono 15 giorni che non ci sentiamo. Sai, da quella volta che ero andato a cercare papà. Vabbè, se non altro mi servono dei fondi. Annuisce quasi solennemente e fa capisco. Non penso, ma va bene. Non lo so, spero di no, sai. Beh, arrivate e passate davanti alla reception, alla portinaia, che vi dice: tutto bene? Sì. Non vi serve una camera, quindi? No, grazie. No. Buona serata, preferisco dormire sotto un ponte dopo la giornata di oggi. Salve. Dice uno slur nella sua lingua. E non è ebrei, vero? Non è ebrei, no. No, è ai danni della gente del nord. L'equivalente di polentoni. Forse più crucchi, non lo so. Vabbè, una cosa del genere. Ok. Sta. Magari riusciamo a spedire la lettera mentre che ci ricongiungiamo con gli altri. Sì. C'è un servizio cittadino di sta roba qua, quindi semplicemente allungate la strada e la inviate. Però, cioè, a meno che non vogliate fare altro, io passerei agli altri. Cioè, a meno che non vogliate fare altro di rapidissimo. Okay. Bene. Nibel non è armato, cioè ha i pugni nelle mani al momento. Sì, cioè il piccone ce l'ho di fianco nello zaino. Sì. Lo posso prendere eventualmente, non so se serve un'azione, però. No. Al momento siete ancora con gli animi molto accesi, ma nessuno sta facendo nulla. Adone molto pacatamente dice: sentite, dateci gli ingredienti e ce ne andiamo. Non c'è motivo per cui bisogna ricorrere alla violenza o dobbiamo farci del male, vero Nibel? Persuasione. L'avete sentito? Lock-in! Persuasione, c'hai più 2, 8. Sono tranquilli, ma non sono persuasi. Quello che aveva aperto la porta, che ha l'ascia in mano, dice: sì, però ora mi dovete ripagare anche la porta. Domanda. Io con Yu-Yu non posso ricostruirla. Puoi sicuramente provarci. Adone fa... ok. Mi giro verso la porta e uso la magia per sistemare la porta. No, però prima il cazzo dice... Prima potremmo avere le erbe? O almeno puoi mostrarmele? Sai. Fate un passo indietro. Un passo indietro. L'uomo passa. Apre un cassetto. Sfruga nel cassetto perché le cose non sono molto in ordine. Tira fuori l'erba che non ti ha dato. Che è il componente più costoso ovviamente della roba in questione. E dice: è qua dentro. D'accordo. E allora provo a sistemare la porta utilizzando. Ora la tiro su la porta. Ora è il diavolo sulla tua spalla e dice: tu sei un alchimista? Scusate. Esattamente. Come la ripari la porta? Lasciami fare. Sono la magia naturale e... La porta è naturale, era un albero. No, sono curioso di vedere l'opera in azione. Prego. Bene. Quel cuore era una persona, poteva parlare, quindi. Infatti. Fin qua, ragazzi. Oh. E niente, una volta preso un attimo quanto la costa, la porta... Due. La cast... Sì, si sta guardando gli effetti. Sì, vai a 2 di mana. E la porta si... non si ripara, ok? Una quantità notevole di corteccia, rami foglie crescono in corrispondenza dei punti in cui era stata danneggiata. Effettivamente, ora è piena, cioè... È una porta, è tornata ad essere una porta. Mi prendi per il culo? Sembra che stia per cagare dei limoni. Dai. Ma che dice? A chi la vuole quella? Fanni. O se me la dici e lo faccio ridere, la potrei anche dire. Però paura che mi spara in faccia. Posso dire, l'avrebbe detto ora. Ha ghostwritato questa cazzata. Scusi, ma non ho niente per sistemare, porco dio. Vabbè, ma secondo me è una bella smerigliata e riviene come prima uguale uguale. Chi che lo dice ora? Dice, beh, più o meno la porta è tornata ad essere quello che è, basta tagliare un po'. Non riesco a dire questa cosa senza ridere. Neanch'io, fa veramente tanto ridere. È tornata adesso una porta, no? Tagli i rami. Fuori. L'erba. Tira 2 rametti in faccia. D'accordo, andiamo, Nipper. Sei sicuro? Sì, lascia stare, non voglio causare guai. A presto, ciao. Esco dalla porta e la sbatto per chiuderla. Battendola in effetti ritorna un po' più door shaped, perché comunque vabbè. Posso castare a distanza Yu-Yu per far crescere un limone? No, c'è quell'altra per il limone, scusa. Scusa, Joe. Ah, non merite, no, scusami. No. Sì, puoi farlo. Ma mancava una spell, capo. Non mi pare. Dovrei rifare il calcolo, se no lo facciamo dopo la sessione. Ok. 2, 2, 4, 1, 5. No, ce l'hai tutte. Okay, ce l'hai tutte. E sì, puoi farlo. Cresce un limone e sentite anche un bel plof. Questa cosa non era da adore, però va. Però ci siamo inimicati la mafia. No, dai! Che comunque è una cosa che è sempre utile. Un domani torno. Vabbè, basta, andiamo in chiesa, basta cazzeggiare. E giustamente la mia calm è morta. Non ha retto. Cazzati un secondo. Non avevo mai avuto a che fare con la corona nera. Commenta ora con tatto inesistente. Perché inesistente? Il suo tatto. Di ora? Sì. Cosa ha detto? Non avevo mai avuto a che fare con la corona nera. La prima esperienza per tutti. Sì. Sì, scusami. Anche se era inevitabile. Io ho avuto a che fare con la corona nera, sì. Nelle ultime settimane, sì. E prima non direttamente. No, prima no. Però nelle ultime settimane ormai, dai, diciamo che ho avuto contatto. A meno che tu non mi stia chiedendo cose più dettagliate, nel qual caso dovremmo spostarci. Però. No, non intendo quello. Ok, no. Benissimo. La cam. Comunque i tuoi farmaci devi solamente mescolarli per creare la tua dose. E io, se non volete dialogare fra di voi, skippo. Se no ditemi voi cosa volete dire. Andiamo. Cioè, io andrei alla chiesa se Nibel vuole. Nibel non ha di molte parole proprio in generale, però lo vedi che è visibilmente irritato. A questo puntadone dice, scusami per averti causato problemi, ma ti ringrazio di avermi aiutato comunque. Non è colpa tua, tranquillo. Ma non è invece tutta colpa di Adone, però. Perché devi infilare il coltello nella piaga e girarlo? Stai zitto, povero Adone, porco Dio. No, è che non mi vedevo setting the facts straight. Mamma mia, ci sta provando con un DILF, con un bear. Lascialo nell'ambiente naturale. Fagli succhiare un po' di cazzo ogni tanto. Nibel ti dice: c'è qualcosa di utile lì dentro almeno. Bianic? Lì dentro nella roba che hai raccolto? Sì, nella roba che mi ha dato il tipo. Sì, al netto dell'affare che non ti era accorto che non era la radice, la foglia giusta, il resto era tutto valido. Quindi hai il materiale necessario per una, forse due dosi. Ah, quindi ce l'ho la dose giusta? Sì. Ah, ok. Ma è quella che ci ha dato all'inizio o ce l'ha data dopo? Te l'ha tirata dopo, quando stavate per uscire. Ok. Vabbè, allora va a posto, sono contento. Allora, Adore dice, beh, sì, ho almeno... domani torneremo da quell'altra spezia, da quella... Ora e... spero che, appunto, avrà gli ingredienti. Va bene, allora... Dopo dovremmo stare un pochino più attenti quando andremo per strada, però... Però va bene così. Hai già provato a guarire con la magia la tua condizione? Chiaramente sì. Questa maledizione non è... È da molti anni che ce l'ho. Ma gli incubi per la maledizione? Sì. Da quello sì. Ok. Sono iniziati dopo ciò. Dopo la maledizione. Ci sta pensando, cioè è assorta, sta pensando ai cazzi suoi. E Adone cazzo un attimino dicendo: nessuno fino ad adesso è riuscito a trovare una soluzione, solo appunto un po'... vabbè, non mi viene il termine, dice, ho semplicemente questa gruccia, questa stampella che mi fa vivere la vita. Beh, troveremo qualcosa, te lo assicuro. Grazie. Forse MIF qualcosa. Sono anch'io una dottoressa. Sei così sicuro che sia possibile trovare una cura? Sì, sono dell'idea che non ci sia una malattia che non si possa curare, solo questione di quanto tempo abbiamo a disposizione. Adone guarda nella telecamera, pensando al suo dito. Tutto finora, da che ho memoria, sembra dire il contrario. No, la speranza è l'ultima a morire. Anche Adone. Se non muori prima tu. Vabbè, sì, l'ultima a morire. Se non muoio prima io della speranza. Beh, sì. Andiamo alla chiesa. Sì, intanto che fate gli ultimi passi che vi separano, dice... Dalla mia esperienza, il problema è sempre capire da dove viene fuori. Una volta che hai capito l'origine, l'eziologia, curare la malattia è semplice, usando la magia o, insomma, i preparati, le altre cose. La cosa difficile è capire da dove si origina. Per quello che i medikit funzionano in maniera strana, perché non sappiamo come fanno a curare le cose, non sappiamo dov'è l'origine dei mali che curano, per cui non sono così interessanti, secondo me. La magia tradizionale, che esiste da 2000 anni e in effetti non ha fatto passi da gigante, ma comunque qualcosina ha fatto, invece è proprio più uno studio per comprendere le malattie. Più delle volte chiamiamo malattie cose che non sono malattie. Ovvero? Spesso confondiamo ferite e malesseri, oppure maledizioni, caratteristiche fisiche, insomma... Ci sono tante cose che la gente confonde per malattie. La questione dei ciechi, mi spiego meglio. Molte persone cieche possono essere guarite attraverso la magia o attraverso i medikit. Ma chi vi dice che non erano cieche per un altro motivo? Molti incantatori con la cecità riescono a sviluppare poteri fuori dal comune. Dando loro la vista si... cancella la loro possibilità di sviluppare queste capacità. In quel caso la cecità è una caratteristica fisica che viene eliminata. Penso vagamente a Rodvolt. Non dissimile da amputare il sesto dito di una persona polidattila. Capisco. è un tema sicuramente affascinante. Magari... E che evidentemente mi ha fatto diventare bersaglio dell'odio di qualcuno dell'esercito. Sì, anche di quello sono abbastanza incuriosito. Magari quando vi parlerò meglio di quello che è successo a me, forse potremo anche capire la connessione con te. Non mi sembra un caso che dopo le nostre due situazioni... Sì, la cattedrale. Certo. E niente, raggiungete la chiesa di Yelos, entrate e c'è il sacerdote che sta pulendo, arrivate più o meno insieme, e c'è il sacerdote che sta pulendo con una scopa il pavimento coperto da questa crosta, sangue secco, diciamo. Buona fortuna. La scopa, sai quelle con gli stecchi, non so come cazzo si chiamano, quelle di campagna. Le tavole di legno del pavimento impregnate di sangue. Sì, esatto. Pianino. Le siamo tutte. Vai, vi siete riuniti, ditemi voi come volete gestire sta cosa, cioè se la volete fare in character, se facciamo un'ellissi, ditemi voi. Per parlare, spiegare io... Sì, cosa avete fatto? Facciamo che ve la spiego io, cioè Adone vi dice che... Per me va bene, come volete. Perché altrimenti ci mettiamo un po' tanto, credo. Sì, io credo che ci mettiamo un po'. Allora, Adone a questo punto vi spiega un po' tutto. Poi se volete fare domande, dite. Adone vi spiega che lui inizialmente era andato appunto nella centrale di Oclica per delle ricerche personali per facendo, ed era capitato appunto con le persone che adesso non sono con noi, quindi con Naya, Ivan, Erindor, Gideon e Zanzan. Vedete Gideon? Che cognome? Adore non lo sa. Non lo so. Però domanda, lo so che era coinvolto con la corona nera, sì. Non era coinvolto con la corona nera, Gideon, ti confondi di nuovo con Erindor. Perché sono lo stesso? Perché li odio! Una persona più normale nel gruppo. Sì, esatto. È il fratello di Gideon, è il fratello di Eddie. No, ma l'avevo già fatto questo collegamento, raga, che sono... Sì, è Adone che non lo sa. Infatti. No, vabbè, ti descrive Gideon. Combacia. Tuo cognato! Mifa lo dice. A questo punto c'è Mifa tipo seduta sul... Penso che abbiano le panche. Sì, sono le panche della chiesa. Mani fra i capelli che sta scrutando, e che nel mentre sta ascoltando fa... Sì, mio futuro cognato. Bene. Tiro Mif... È preoccupante la quantità di persone che conosci. Ho viaggiato, sono collegate al nostro... molto. Cosa hai detto? Ho viaggiato molto. Poi certo! Però ormai credo di starmi abituando a queste incidenze. Chiaramente, che schifo dietro, io. Infatti è incredibile che Lieto sia venuto fuori senza usare il gender machine. Pace a fare! Sua zia comunque non è etero. Cioè sua mamma non è... Sì, lo so. E vabbè, va avanti a raccontare. Dice che lì nella centrale ha scoperto, cioè Adone vi dice, abbiamo scoperto il segreto delle centrali e più o meno da dove viene il mana. Gli chiedete sta cosa? In realtà, aspetta. Non puoi dropparla così, però, porco Dio. Cioè, se non... Allora vuoi che la ruolo? Sì, per favore. Ok, allora questo punto, dice, alla centrale abbiamo fatto una scoperta che appunto doveva essere fatta. C'è stato un malfunzionamento nei sistemi di sicurezza. Non abbiamo capito se questo malfunzionamento sia stato un caso o sia stato orchestrato da qualcuno o da qualcosa. In ogni caso, questa informazione è sensibile e vi avviso che vi metterà direttamente in pericolo. Quindi dovete essere voi a dirmi se la volete sapere o meno. Cognito hazard disclaimer questo. Domanda, Master, non mi ricordo più, Miff ha ricevuto le lettere di Naya? No. Avevamo detto di sì. Non l'ultima. L'ultima. L'ultima era quella sulla centrale o quella della sì. quarantena? No, era... esatto. Ok. Vai avanti, senti. E vi guarda comunque per dire... Questo riguarda il segreto delle centrali. Come sapete, comunque, i segreti delle centrali è uno dei segreti più... meglio... guarded, come si dice in italiano. Meglio... Invincible. Scusami, meglio comunque conservati dell'impero e in generale del mondo. Qualcuno è sotto contratto? Sì. No. Ora fanno con la testa. E il vescovo, il sacerdote si è avvicinato, ha smesso di scopare e mi sta ascoltando. È sotto contratto. Nibel è seduto su una delle panchine e ti dice: se ci sono delle informazioni sulle centrali vorrei saperle. Ok, io adesso dico sta cosa, per favore Biane ci correggi, mi sento male qua, perché la mia memoria non è delle più. Adone dice: siamo entrati nel nucleo della centrale, al cui interno abbiamo tutto un corpo, un ruolo cadavere. Ora, ok. Sì, sì, mummificato, da cui stavano estraendo mana. Come? Oh. Abbiamo motivo di credere che qualsiasi cosa sia esattamente il mana, se è una, diciamo, sangue e linfa vitale, sia di natura divina. Sentite una scopa che cade per terra. Adone è molto serio in questo momento, chiaramente. Ma... lo sto dicendo con una certa gravità. Sì, sì, sì, sì. È il sacerdote che dice: ma quindi è tutto vero? In che senso tutto vero? Vero intendi? Gli dei, gli avatar, le leggende. Sì, è tutto vero. È vero. Anche Miff questa volta dice sì. Si siede per terra il sacerdote. Sembra che stia avendo un attacco di cuore, comunque sta sentendo fisicamente male. Guardo Miff alzando il sopracciglio, però ormai l'avevo capito che... quindi non mi sorprende. E dice, appunto, non siamo ancora sicuri se quelli all'interno delle centrali siano avatar o direttamente le divinità. Però è tutto vero. Cos'è che dice? Ha dei libri di Paracelso, erano gli avatar, vero? Sì. Ok. Che avrebbero fatto quello che stai pensando, sì. Lo faccio, cioè, lo faccio sapere anche agli altri questa cosa. Cos'è che dici? E, le centrali sono state create utilizzando degli scritti di Paracelso, correggimi se sbaglio, Bianca. Allora, pseudo-Celso in questo mondo. Pseudo-Celso, sì. E non è qui sui scritti. La prima centrale l'ha fatta lui. Fatta lui, ok. E le prime 20, mi pare, non mi ricordo il numero esatto, le ha fatte lui proprio materialmente. Era lì sul posto a crearle. Dopo, della gente che... questo è... come si dice... common knowledge, è come sapere che Oppenheimer ha fatto la bomba atomica, cioè sono robe che le sanno tutti. E dopo aver fatto sta roba qua, lui è morto, giovane, relativamente giovane, e altra gente ha preso il suo posto e ha iniziato a fare le centrali, e l'ultimo che ricopre questo ruolo, cioè il... come lo chiama, il direttore delle centrali, no, come si chiama, Sara? Brooke. Sì, che cazzo è? Il presidente della commissione per le centrali, quello attuale è Shairitz Brook, anche questo è una è una persona famosa, compare sempre nei giornali, è un volto pubblico. E abbiamo anche l'immagine, perché ovviamente abbiamo una... come cazzo si chiama? Un prestavolto. Esatto. Che è proprio lui. Sì, quell'attore lì. E... cos'altro stavamo dicendo? Basta, cioè, fine. Beh, queste cose sono common knowledge. Sì, sì, sì, questa roba la sanno tutti. Aspetta. Devi avatar di più. Vabbè, no, e comunque i libri lasciati da da Pseudo Celso asseriscono che fossero gli avatar degli dei. No, te ti confondi allora con Celso, che era il maestro di Pseudo Celso a cui prende il nome, che scriveva sta roba qua. Ok, scusa, pensavo stessi dicendo un'altra roba. Ok. Questa allora... non è non non è non common knowledge. Cioè, è una roba che devi averla studiata. Ok. Cioè, che Pseudo Celso prende il nome... Te la sta raccontando... Sto facendo la storia assumendo. Elieto ti sta raccontando che Pseudo Celso non è il suo cazzo di nome. Cioè, ha un altro nome. Si chiama Bombastus. Prende il nome dal suo maestro, che si chiamava Celso. Che si chiama veramente Celso. Sì. Che era un vecchio Matusalemme moderno. Era già vecchio, cioè era ottantenne quando Celso inizia a studiare sotto di lui, e raccontava che secondo lui, nei suoi libri che si possono ancora recuperare oggi, sarebbe arrivato il giorno in cui gli avatar avrebbero distrutto il mondo. Però, cioè, letta oggi era tipo il vecchio pazzo che c'ha delle idee strane. Sì, letta adesso... Il Millennium Bug. Sì. Adone, quando gli racconti questa cosa... aggiunge un pezzo. Oddio, ho paura di fare meta. Prenditi il tuo tempo. No, ti chiedo, Pjanic, la visione che abbiamo avuto riguardo un certo personaggio che io ho visto in un'altra campagna con cui interagito, hai capito? Sì. Ho capito che è un avatar? No. Ok. Posso fare la connessione? No, perché non lo è. Cioè... non è proprio vero. La stessa cosa. Ok. Però se vuoi fare, cioè se vuoi dire che Adone c'ha un'idea... Adone menziona e dice, ho visto, diciamo, uno di questi avatar, non sono sicuro di un avatar, ma ho visto una creatura che interagiva con una persona che era rinchiusa in una centrale, la faceva uscire e questa persona andava in una... andava a fare un genocidio in città, sostanzialmente, quindi... E credo che se... Pausa. Nei giornali avete letto questa notizia, avete letto la notizia dello sterminio di Singida, cioè, l'hanno fatta passare come un'esplosione naturale di materiale legato al mana, e quindi ci sono stati un botto di morti vicino alla centrale, non dentro la centrale, però è passata come un incidente non legato alla centrale, perché effettivamente, cioè, a parte il fatto che è successo vicino, non era collegato. E sono morte 700 persone, tipo, cioè, comunque un botto di gente. Sì. Quindi appunto dice che quella notizia singida è probabilmente, cioè, è stato per questo motivo. La centrale di Singida era quella di... del papà di... Oddio, sto già dimenticando il nome. Ivan. No. Steven, no. Quella di Ivan... No, è vera. Esatto. Okay. E poi appunto Adone a questo punto continua. Dopodiché... oddio, adesso cosa cazzo era successo? Troppe cose. Tante cose. Adone a questo punto dice... Dopodiché sono successe veramente tante cose e faccio un po' di fatica anche a parlarvi. In ogni caso, quello che dovete sapere è che dopo questo evento siamo tornati nella mora per essere poi prelevati dall'impero dopo 3 giorni. Pochi giorni, sì, 4-5 giorni. Giorni. E appunto la scusa dell'impero era il fatto che fossimo infetti da questa fantomatica malattia che si è rivelata essere vera. Una delle scienziate che ricordo il nome? Ricordo, aspetta. C'ho il nome qua. No, ce l'ho, ce l'ho. Lidia. Lidia, ecco. Una delle scienziate, Lidia, è morta dopo pochi giorni. Perché, diciamo, dopo che siamo andati via dalla centrale, era effettivamente successo qualcosa. C'era stato un malfunzionamento generale. C'è stato nei giornali, eccetera, eccetera. Esatto. Dopo qualche giorno Lidia, appunto, si è sentita male, era andata a farsi curare, ma lì, appunto, è esplosa, letteralmente, trasformata in uno di automi. A quel punto l'esercito è venuto a prelevarci e ci ha portato... No, perché c'è sta canzone qua in mezzo a sta playlist, vabbè. Scusa, vai, vai. E ci ha portato, appunto, nella cattedrale ad Oclica, dove siamo rimasti lì. Il vescovo era venuto a fare un miracolo, a performare magia, per esplodere anche lui immediatamente. Che è la parte più bizzarra, poiché lui non dovrebbe essere entrato in contatto nella centrale. Al massimo era entrato in contatto con la nostra aria in quel momento lì. Ed è successo immediatamente. Dopodiché siamo stati e sono stati portati in una quarantena, per fare una specie di quarantena. Lì una nostra compagna di sventure, Ren, ha iniziato a sentirsi particolarmente male, appunto. Ha iniziato ad avere febbre, ci pesavamo ogni giorno per vedere cambiamenti importanti nel nostro peso, e Ren è stata quella ad appesantirsi sempre di più, iniziando ad avere febbre. Dopodiché, con aiutati da Kiel, che è una donna che è stata infettata ma si è, diciamo, salvata grazie a un patto che aveva fatto, siamo scappati dalla villa e siamo andati a fare un'investigazione, qui siamo riusciti a recuperare una reliquia che ci ha messo in contatto con qualcosa. Qualsiasi cosa sia ciò, era qualcosa di estremamente malvagio. Le magie, la teologia di Naya era potente. E diciamo che ho fatto anche Ivan, ma dopo che Ivan sembra avergli promesso qualcosa, questa reliquia gli ha permesso di costruire un artefatto per curare Ren. Era un artefatto strano, era, immaginate questa siringa che magicamente si è impiantata nel corpo di Ren e ha aspirato via tutta questa polvere metallica. A quanto pare ricopriva il suo corpo, in un certo senso. Dopodiché l'artefatto... Cos'era successo esattamente alla siringa? Era rimasta lì? Era diventata pesantissima, sì, e poi l'avete lasciata lì. Sì. Appunto, dopo aver assorbito tutto questo peso era impossibile da muovere. Cioè, pesava 40 kg, la potevi muovere, però era una roba... Tra l'altro 40 kg ed era una roba grande così. Sì, sì, infatti lo spiego. Dopodiché... Diciamo che ci sono stati degli avvenimenti un po' caotici e la persona che aveva qui, ovvero Erindor, è sparito. Quindi ho un modo per curarmi? Sì. È qualcosa di fattibile? Credo proprio. Non ho idea di dove sia andato Erindor. Ho un'idea, domanda Bianic, lo so che ha a che fare con la cosa nera. Sì. Sì, ok. Adone dice, so che Erindor è affiliato con la cosa nera, ma non saprei nemmeno da dove cominciare per entrare in contatto con lui o anche solo capire dove sia finita la reliquia. E poi non ci sarebbe nessuno. È un po' spero, BTS. Anche... Dice, anche riuscissimo a metterci in contatto con la corona nera, non so per quale motivo ci dovrebbero dare un artefatto del genere se non è già stato usato o trafugato. È comunque qualcosa di estremamente difficile da riottenere, soprattutto considerando che qualsiasi modo per ottenere le informazioni necessarie per creare quell'artefatto è fare un patto con qualsiasi creatura sia questa. Ok, è tanto da digerire. È tanto, me ne rendo conto. Ci sono alcune cose che ho lasciato e che vi posso spiegare nei prossimi giorni. L'unica cosa che so, appunto, tiro un attimo via il guanto e so che questo è di natura divina o diabolica o qualcos'altro, che io morirò se non riusciamo a trovare il modo di estrarre il metallo che c'è nel mio corpo, e quando morirò mi trasformerò in uno zombie senza coscienza e di controllo. A questo punto non so quanto tempo mi rimane. Vi ho detto, la trasformazione di Ren è avvenuta in 5 giorni. Per il vescovo è stata immediata, per Lydia è stata 3 giorni. Credo che ci metterò una settimana, ma non ho modo di sapere questa cosa, di controllarla. Se no, a meno che non For context, visto. Senti già il gomito rallentare. Adone vi guarda un attimo e dice: lo vedete abbastanza preoccupato. Dice: non so dove siano finite gli altri, non capisco perché non abbiano preso il potrebbe essere successo qualcosa e che li abbia impedito di attraversare il portale. Ma in ogni caso non lo so, sono disperato, non so cosa fare. E fare un guarda patto. Molto provato. Mi fa fare e fare un patto con lo stesso. Allora, mi sa che i patti sono con i diavoli. Sì. Chinosi, esatto. E fare un patto con lo stesso diavolo che ha salvato, tra virgolette, la ragazza che hai menzionato. Con calma. Capisco le divinità, capisco tutto. Patti col diavolo? È ora che parlo. Beh, ovviamente. Sì, ovviamente. Domanda, io non ho la certezza che quello fosse un diavolo. Non hai più l'idea di cosa cazzo fosse. Infatti, perfetto. È di sa. Cioè, non so nemmeno se fosse un diavolo. Potrebbe essere, come vi ho detto, io e Naya abbiamo teorizzato un pochino, ci siamo confrontati e da quello che è emerso credo ci siano anche altre entità in gioco. Mi sento pazzo a dirlo in questo modo, però no, non sei pazzo, ne hai incontrate. Ego? Ho incontrato Arva. Non vi dice un cazzo sto nome, ma sai zero? Sì, è quello che ha nominato prima, però sì, sì. La donna dice un dio, da quello che ho capito, no? Il dio del tempo, esatto. Ma anche per il nome di Remake, scusa. Vero, ma... Vero. Niente, va bene. Un'altra divinità? No. No, aspetta, yeah. Lieto mi rollo di 10 di... storia. Te dirò un di 10. Tanto è un 1, non ti preoccupare. Perfetto, mai sentito nominare nessuno di questi devo nomi. Devo rollare? No, era solo per Lieto. Come io no? Secondo me no. No, sto scherzando, chiaramente. No. Non ho capito una sega di niente di quello che hanno detto. Ok. Come per... Si gira verso il disco. E fa... Per caso lei gli dice qualcosa. Il vescovo è... non è lì, cioè è tipo... cioè sta avendo the moment of being della sua esistenza. Se gli vai a parlare, gli prendi una spada, oh, è un altro discorso. Se gli parli e basta, non ti sente nemmeno. E il secondo, il primo, in realtà, è stato un diavolo. Arva? No, Arva è un dio. Il diavolo in questione si chiama Yadamak. Yadamak non mi suona familiare. Ma neanche un po', perché dovrebbe... Vabbè. No, sei ironico? Dimmi perché dovrebbe. Hai letto un libro di demonologia una volta, non è che te li ricordi tutti e 78 a memoria. No, certo, certo. Sì. Uguale a Lieto, eh. Sì, ma bad. Cioè, se vuoi fare un roll per vedere se quella volta che hai letto il libro te lo... No. Cioè, fallo, però. No, Adone appunto dice... Beh, anche... Volessi fare un punto con questo diavolo, non ho modo di... chiamarlo, comunicarci. Mi fa sorridere. Fa. Allora, non lo so, è già interessato ad un'altra persona. Non so se magari lui ti possa rispondere. È il diavolo dei desideri, in ogni caso. Quindi, magari lo desideri abbastanza forte. Darà una mano. Bella. Adone con la mano buona, sì. E lui a sto giro a stringersi il punto in alto dice: io credo menzionerò questa cosa, mi sembra rilevante al discorso. Io credo di essere già entrato in contatto con un diavolo quando ero molto, molto piccolo, ed è il motivo ora mi desidera carnalmente. Ed è il motivo di questo. E si indica l'occhio verde, appunto, che è diverso. E in generale le ciocche di capelli bianchi. È lo stesso motivo per cui hai l'inco. Sì. Sai che diavolo è? Non ho idea. Ho partecipato, ovviamente, inconsapevolmente, a un rituale organizzato da mia madre. Vedo che qua tutti abbiamo problemi con le madri. Sorvoliamo. È morta. Non me la ricordo. Il punto è che Kiel, la ragazza di cui parlavo prima, teorizza che il motivo di questo figuramento sia perché proprio perché io non ho seguito patto. Sì, è tra le clausole, effettivamente. Ovviamente, avevo all'incirca 4 anni, purtroppo non ho ricordi prima di quell'evento, e in ogni caso, ovviamente non mi ricordo di aver firmato nessun contratto, non scrivere, leggere e scrivere. Che strano. Sì, effettivamente è l'unica volta che ho visto un contratto. Poi Mesa si ferma e pensa, io forse ce l'ho qua, quella volta che è andata da... Se l'è trascritto, me lo ricordo. Una volta che è andata? Da Mimi, Mif si è trascritta, okay. Il contratto di Mimi. Penso che ce l'abbia dietro. Sì, sì. Esatto, tira fuori, tipo dai suoi taccuini, un foglio e te lo porge. Questo è il contratto che è stato fatto ad una persona mia cara. Ok. Magari... Ecco. Ci sono tutte le clausole. Magari ti ritrovi in una di queste. Le leggo, ma... Cioè, Adone così a freddo dice... Non ho modo di sapere a cosa... Che clausola ho... Cioè, a quale clausola non ho intervenuto. Non ho ricordo. Lo sfregio. C'è scritto. E ti indica il punto. Lo sfregio. Leggo cosa dicono riguardo lo sfregio. Quel contratto lì nello specifico dice che la violazione del contratto in certi metodi comporta lo sfregio del contrattuario. Ok. Scusate, devo far uscire il gatto. Arrivo subito. Ora, tu non hai il tuo contratto. Non hai idea di cosa hai fatto. Questo è solo... Ma hai fatto... sì, era per dire sì, bene, mi fa piacere. Non so comunque che cazzo ho fatto. Aspettiamo un attimo che... Sì, sì, sì. Uscire, madonna, devo pisciare fortissimo, ma sono troppo locked in. E vai adesso. No. Deve usare quel boost di adrenalina del piscio. Ok, ok. Esatto. Veramente il diavolo è con il... Tanto nel caso c'ho un bicchiere vuoto. Ma infatti. Ma poi posso dire, piscia per terra, che cazzo te ne frega, tanto. Comunque Ica, sì, chiaramente in anticipation, ho due bicchieri sul tavolo. Sto. Così uno, vabbè. Mi stai battendo, mi sa. Sì, ce n'è uno solo in questo momento. No, vabbè, assurdo. Io ho zero bicchieri. Se voglio bere qualcosa di fresco, c'ho un bicchiere. Se voglio qualcosa di caldo, ce l'ho. È giusto. Sono pure color coded, magari. Però boh, uno è una lattina. No, beh, dai, conviene. Ah, ma poi mi fa piacere che tu c'hai le mini lattine, Cristo. Perché non ho... È l'unica cosa piccola che puoi avere. Non ho resistenza alle sostanze, quindi in realtà la lattina così mi dà il boost della caffeina, come bere un caffè. Strano. Pensa che a me la caffeina non fa effetto. Ok, dicevamo, Adone appunto ha letto il punto e dice... Sì, ho capito che non ho seguito, ma non ho idea di cosa io abbia fatto per seguirlo. Non so nemmeno... Se io effettivamente avessi un contratto, immagino di sì, ma non ho ricordi di tutto ciò. Non so ideale. Nemmeno che diavolo potesse aver cercato di evocare mia madre. La mia conoscenza non è molto ampliata. Però l'ideale sarebbe... Sarebbe poter comunicare con quel diavolo, trovare e farti ricordare chi fosse. Hai idee al riguardo su come farlo? Farti ricordare? Ah, non è il mio campo. Il mio campo sono i sogni. Quello che ti posso proporre è che attraverso i sogni possiamo vedere se troviamo il diavolo. Hai fatto il patto. Vedi che Adone fa una faccia di sofferenza. Dice: non credo di essere sicuro di voler riaccedere ai miei dubbi. Vedi che ci pensa un attimo e dice: credo che ormai sia una ventina d'anni. Ti ricordi l'ultima volta? I fucking do. Prego, scusa. Yeah. Inside jokes. Misty guarda e fa... Tecnicamente la teologia che utilizzerei... Dovrei vedere io i sogni che fai. Non ho capito se il bersaglio vede. Sì, lui c'ha il sogno normale e tu vedi il sogno normale che sta facendo. Ok, quindi lo dovrebbe vivere. È tipo voyeur best friend. Sì. Dai, però te sei consciente, cioè se questo sta sognando una roba strana gli diri uno schiaffo e si sveglia. Cioè... Esatto, infatti cioè Mif te lo dice, io che sto castando magia. Sono cosciente, rimango sveglia. Nel momento in cui c'è una situazione di pericolo, in ogni caso ti sveglierei. Però effettivamente, se possiamo liberarti dall'edizione e magari trovare una soluzione per il dito. Adone ti guarda un attimo e ti dice: non ricordo bene i miei sogni, o meglio. Non so cosa sogno effettivamente. Ho dei vaghi ricordi. L'unica certezza che ho è che sono. Qualsiasi cosa io veda mi può provocare pulsioni. Ok. Non voglio essere rispettoso, ma fatico a credere che qualsiasi cosa tu faccia, tu ne venga affetta. Beh, come dire, Adone, ne ho passate tante, tu ne hai passate tante, io sono disposta a rischiare. E mi sorride perché col te fa così. Master, posso fare una richiesta io? Dimmi. Può rollare persuasione Mif? Per convincere? Oh. Sì, ma secondo me non ti conviene. No, quanto dai, c'ha 4 e tu c'hai 2. Quindi ha più 2 Mif. Ma secondo me ha più senso se non la ruoli, e semplicemente prova a convincerti e slash tu decidi se vuoi o no. Esatto, esatto. Cioè Mif ti sta lasciando tutto la porta aperta. E che porta? Mm-hmm. Master, mi sento più pesante. Il braccio non è tanto questione di pesantezza, ma movimenti più meccanici. E sono il gomito adesso. Sì. C'ho la giuntura del gomito, quando la muovi... Cling. Cling. Dove ci pensa, dice... D'accordo. Possiamo provare a fare... questa prova, sui sogni. Ah! Non mi aspettavo, accettassi. Qualcuno da qui torna. Ed è più importante di questo. Comprendo. Vi lasciamo una camera per voi? O... Sì e no. Preferirei che ci fosse qualcun altro presente nel caso. Sì. Mif iniziasse ad avere... Io ne avrò sicuramente. Sì. A proposito, prima che ci imbarchiamo in qui, noi siamo stati dal fanatico dei giornali. Domani ci dobbiamo presentare all'università, tanto che può aiutarci a trovare informazioni. Ah. Scusa, riguardo... Informazioni generali, ciò. Ah, ok, certo. Qualsiasi cosa servirci per, primo, sopravvivere qui, secondo, vedere di... capire come cazzo curarti, e terzo è di rilievo. Posso... ci aiuterà, sicuramente. Avete trovato qualche contatto? Sì, è una persona che ho conosciuto tanto tempo. Conosci veramente tutti? Possiamo fidarci? Fortunatamente. Sì. Sì, certo. È il figlio di professore dell'università di cui non mi viene mai il nome. Zenith Auster. Grazie. Un professore della Zenith Auster che ho visto letteralmente morire davanti a Ingu. Quindi... Come si chiama? È affidabile. Patroclus. Cazzo, il mio cognome non me lo ricordo. No. Arrivo. Te lo completa... Nibel. È il figlio del primo direttore della centrale? Eh già. Cioè... Sicuro che possiamo fidarci di lui? Cosa? Cioè, Biff cade dal tiro in questo momento. Sì. Cioè, pensa a quello che ha visto e fa... È il figlio. Non è il padre. Fidati che c'ho buoni rapporti. Da quello che ha detto Adone, sembra che la situazione sia molto più complessa di quello che pensassi. Io non sono particolarmente intelligente, non ho ben capito quanto è grave effettivamente questa cosa di diavoli e dei. Prima che andiamo avanti, voglio essere sicuro che siamo tutti sulla stessa linea. Quindi vorrei sapere quali sono i vostri obiettivi, perché il mio è abbastanza chiaro in questo momento. Vero? Radere al suolo ogni singola centrale e assicurarmi di uccidere ogni singola persona che può farle ripartire. Um, Credo di essere relativamente d'accordo, forse non in maniera così radicale. Ci sono ancora tante cose che non capiamo. Però sul distruggere le centrali sono d'accordo. Dietro? E trovare un modo per renderle sostenibili. Sicuramente ne sapete molto più di me. Io non ho molte possibilità di trovare altri appigli, quindi vorrei fidarmi. Mi sembra che Miff abbia chiesto a Lieto. Non ho sentito. Okay. No, scusa. Cosa ha detto Miff? Lieto? È Lieto? Che obiettivi hai? Ma Lieto... Lieto si sta godendo la gioventù. E che gioventù, e che goduria. Roaring Twenties. Mostly in realtà in questo momento è tipo... Non vorrei la peste, grazie. Ah, quindi niente più dei... Niente più... No, quelli ci sono, ma... Cioè, per fare quelli devo essere vivo. Per essere vivo la peste non mi piace. Mi sorride. Il mio obiettivo è andare al fondo della questione, scoprire la verità. Come dirlo? Sono sotto contratto, non di quelli magici che conoscete voi, un contratto da gente, chiamiamolo così, con il signor Tyrus Brook. Ah, il big boss. Esatto. E quindi sì, insomma, io volevo entrare per capire se voi volete distruggerle. Mi fermerò. Ora che non l'avete consultata, ma si sente in dovere di dover dire anche la sua. Non sono sicura che distruggere le centrali risolva il problema, però sicuramente c'è da capire di più su questa faccenda, quindi sono con voi. E più che altro non mi torna il fatto che cos'è che fanno, succhiano la divinità, cos'è che hai detto, Adone? Non abbiamo capito quella parte, anzi... E tira fuori la neve azzurra! Quella cosa. E abbiamo staccato questi tubi dal cadavere dopo aver avuto una visione. E questo è il mana che stava uscendo. Mettergli una boccetta di neve. Ti dico il colore? Neve azzurra. E appunto... È il materiale dei mana penny, però... poco denso. Sì. E okay. Non ho capito cosa fa. Non ho capito se è tipo la fa vitale, l'energia divina e qualsiasi altra cosa sia. Se quello era un avatar, se non la divinità direttamente, credo sia l'avatar. E stavano estraendo questa cosa da qui. Aspettate, io ho una domanda, però. Ci sono un sacco di centrali. Com'è possibile che ci siano altrettanti avatar degli dèi? Questo è un problema a cui abbiamo pensato e a cui non abbiamo trovato. È preoccupante. Come hai detto tu, non ci sono abbastanza divinità per fare così tanti avatar, o meglio, di quelle che conosciamo. Ma se ci mette anche i diavoli. Esatto. Questo diavolo, Yata, mi ha detto che un suo fratello era intrappolato dentro una centrale. Non ha specificato, ma dentro una centrale. Guardando te, Pianis. E la centrale era viscola, vero? Può essere. Era? Dimmi il nome del fratello. Gangster. Che nome? Io mi immagino Viscola. Sempre Gengar. Sì, la Viscola. esatto. Non avete idea di dove sia, cioè nel senso che è a sud del Regno Sefino, ma cioè... Alla centrale di Viscola risiede appunto il suo fratello, pare Genghesser. Ok, abbiamo la conferma che sta utilizzando... Però, appunto... Sì, è preoccupante il fatto che continui a costruire centrali e cercare sempre di utilizzare sempre di più una... Per essere finita. Hashtag sostenibilità, hashtag climate change. Adone for the planet. No, rendiamo le centrali nucleari sostenibili. Green. Vabbè, raga, Adone non è... Cioè, non è... C'è tu altro. Certo. Non lo vogliamo. E allora dice... Non mi ricordo qual era il punto iniziale. Anch'io l'ho perso, scusa. Mio cane, qualcuno mi uccido. E vabbè, quindi... comunque, sì, diciamo, dei diavoli. Quindi cosa dovremmo farne di questi avatar, di questi diavoli, se distruggiamo le centrali? Li liberiamo? Ecco, no, non sono sicuro che liberarli così vada bene, perché è quello che ha causato uno di queste persone a causa di Singida. Ora fa una domanda. Quindi voi avete liberato l'avatar di Oclica? Uh-huh. Lo abbiamo ucciso? E casualmente, pochi giorni dopo, è scoppiata la piaga di bronzo. Nella stessa città. E questo quando intendevo che probabilmente è colpa nostra. Però c'è da dire un'altra cosa. Ci sono altri eventi collegati e coincidenti che non ci siamo riusciti a spiegare. Per esempio, la centrale ha effettivamente avuto un malfunzionamento che non è collegato alle nostre azioni. C'erano anche... Ti fermo subito. Non è collegato alle tue azioni. Per quanto tu ne sai, sbaglio? Eravate quanti? 6 persone hai menzionato? Sì. E almeno uno di loro era un terrorista, faceva parte della Corona Nera? Sì, se non... Sì. E hai detto che era alla ricerca di un artefatto? Sì. E vuoi dirmi che non può essere che questa persona abbia causato tutto? Potrebbe essere. Quindi non sto dicendo che tu l'abbia fatta apposta o che sia colpa tua, eccetera, però le due cose... Se dobbiamo parlare razionalmente, oggettivamente, sì, le nostre azioni hanno causato direttamente la piaga. Non è un caso. Non ho nessun dubbio che tu non volessi farlo, non mi fraintendere, però credo che questo sia quello che succede quando distruggi la centrale. È per questo che secondo me non è la soluzione. E o meglio, è vero che abbiamo trovato, prima di entrare nella centrale, dei ratti metallici. Comunque simili a quello che succede a noi persone umane. Ah. Quindi qualsiasi cosa abbiamo causato non è per giustificarmi. Stava già avvenendo. Credo. Ovviamente queste sono tutte congetture, ma c'era già qualcosa di simile in atto. Siete sì. Sicuri che l'entità che è stata liberata sia stata uccisa? No, non, assolutamente no, non credo sia stata uccisa. E la centrale funziona tuttora? Funziona, ma con manapenni dal mana di... E non abbiamo idea di chi abbiano sostituito. C'è stato... E aggiungo che per un paio di giorni dopo la loro avventura, perché Lieto non c'era già, hanno ridotto la produzione di manapenni alla centrale. E li producevano con un simbolo diverso. Le persone che vengono afflitte dalla piaga di bronzo che fine fanno? Muoiono. Scoppio. Sì, esplodendo e trasformandosi in questi, o queste creature fatte di metallo. Zombie. E chi ci assicura che questo demone, diavolo, non prenda il controllo di queste persone trasformate? Ho motivo di credere che non prenda conto. E... potrebbe essere. Ti sposto un secondo. Infatti, vai. Ti sposto un secondo perché... questa cosa potrebbe essere o meno deviante, cioè mandarti fuori strada o meno, però ti voglio ricordare, che forse l'hai dimenticato, che quando Ivan era posseduto... Sì, sì, stavo per dire proprio questa cosa, che quando Ivan era posseduto, Batu... Esatto, perfetto, perfetto. No, no, no, ok, era per dirtelo a te e non a tutti, se non volevi dirlo. Sì, la stavo proprio per menzionare. Perfetto, scendiamo, scendiamo, scusa. Può darsi. Scusate. E appunto questo ti dice: non credo ne prenda controllo direttamente, perché sapete la reliquia di cui vi dicevo? No? Il nostro io non ne sono in contatto con un modo di parlare. Il microfono si sta tagliando, lo metti meglio o la regoli la sensibilità? Abbassa la sensibilità, sì. Pronto, mi sento. Ora va. Sì, okay, sì, era messo fatto. Male. Ok. Ok. Dice: sono entrato in contatto con questa reliquia e sono. Ho parlato con questa creatura, con questa entità. Dopodiché, il mio compagno Ivan è entrato in contatto e lui ha accettato il patto che gli stava venendo proposto. Quando siamo tornati alla villa dove appunto stavo facendo la quarantena, un altro nostro compagno, di nome Batu, si era trasformato. E questo zombie, invece che attaccarci, si è inchinato davanti a Ivan, che in quel momento era, non lo so, posseduto, non so se è il termine giusto. Non... in ogni caso, era in contatto con questa entità. Che io devo controllare una cosa perché non mi ricordo se lo sa Adone o meno. Fammi un attimo vedere, perché l'ho letto proprio prima. Pjanic, io il nome l'ho scritto negli appunti, ma me l'ha detto? Se ce l'hai negli appunti lo sai in qualche modo. Dimmi il nome. Voidheart. Sì, sì. Ok. Dice questa entità sì, di sì. Nome Voidheart. Ho letto il commento adesso. E appunto lo Zombatu si è inchinato davanti a lui, quindi credo che fossero comunque due cose separate. Non credo ne prenda controllo direttamente. Però li manipola. Certo. Li può manipolare. O comunque sono di sua creazione. E questo è quello che succede quando uccidi la cosa nella centrale. Cosa succede quando distruggi la centrale e lo lasci vivo? Uccide 700 persone? Per questo la soluzione migliore non è distruggere le centrali, è trovare un modo per metterle di tutto in sicurezza. Ripeto, qualsiasi creatura sia dentro a una centrale è in quello stato da anni, da quando è stata costruita la centrale, appunto. Quindi se ci sono persone che sono umane o erano umane, avatar, divinità, qualsiasi persona ci sia all'interno sta soffrendo da tanto tempo. Ne ho conosciuto uno. Finalmente il sacerdote si alza in piedi. Era stato out of it fino ad ora, era andato per la sudden revelation. E... no raga, devo un attimo andare a pisciare, vai, scusate, vai. Vado anche io. Vai, pausa di 5 minuti sul... poi ce la fai a chiudere, che sì, io sto dormendo ormai. Sì, ma infatti volevo chiudere sulla revelation. benissimo. Mica, non pensavo che avremmo spacchettato così tanta lore oggi. Abbiamo vinto D&D. Sì. Ho vinto a Pentagon Spread. Bene a fare il personaggio che non sa niente. Sei stato molto bene con il personaggio precedente che c'avevo io. Che era... Ma non so neanche come definirlo, cazzo. Era il selvaggio russoiano. Sì. Cazzo quanto mi manca, Zanza. L'hai ucciso tu. Lo so, ma toccava. Ciao, Eddie. Io comunque che mi impegno per tutta la sessione. No, non facciamo vedere chi sono in mutande. E poi... Fucking same. Vabbè, tu ormai. E... Ok, ci sono. Cos'è che ha detto? C'è anche Sara? Sì. Ok, perfetto. No, non ho ancora detto niente perché mi ero interrotto. E dice... Io ne ho visto uno. Ero un ragazzino. Avrò avuto 10-11 anni. E... Ero in un giardino, in un prato, in un campo coltivato, insomma, fuori città, e vidi un dio, vidi Yelos, e indica la statua, che è stata riparata, quindi comunque, e era coperto di frecce, di lame sulla schiena, ed era... grondava di sangue, però era Yelos, era chiaramente lui, aveva un'aureola di raggi solari sulla testa. Era esattamente come veniva descritto nella mitologia. Era lui. Forse un suo avatar, insomma, era lui. E mi disse di non far morire il suo culto, di continuare a venerarlo. E che avrei dovuto seguire un percorso pio, un percorso sacro. E forse per questo che ho studiato... magia sacra, ho studiato come aiutare il prossimo, la magia curativa, e per caso, anni dopo, morì il vecchio vescovo della chiesa di Yelos e presi il suo posto, ma in tutti questi anni non ci avevo più pensato, era una cosa che mi era successa da piccolo, ero convinto fosse un brutto sogno, un'allucinazione, insomma, una cosa che mi ero inventato, ma ora la ricordo... bene, visibilmente. Ricordo quell'uomo coperto di frecce. Ricordo che mi nascose, mi protesse per qualche motivo. E ricordo che vennero degli uomini dell'impero. Quindi stranieri nella mia terra, perché non hanno diritto di stare qua i soldati dell'impero. E lo catturarono. C'era un uomo, aveva una strana maschera. Decorata, sembrava la faccia di un animale, di un lupo, di qualcosa del genere, e incise un sigillo sulla sua schiena. Devo cambiare musica perché questa non ha nessun cazzo di senso, dovevano toglierla da... E lo trasportarono via. Pochi giorni dopo, sui giornali, ricordo che... ci fu l'annuncio di una centrale di mana nuova e che stava per essere costruita di lì a poco nell'impero, appunto, la centrale di Pruzurk. E ora che mi avete raccontato queste cose non riesco a non pensare che quello fosse un dio, che fosse stato catturato per diventare qualunque cosa ci sia al centro delle centrali di mana. Quindi anche gli dèi? Non sono al sicuro. Ti dico, no. Non so se... Nella mitologia gli dèi sono intangibili, non hanno forma fisica, non puoi toccarli, non esistono. Si manifestano attraverso gli avatar, le loro personificazioni. La Santa Chiesa per secoli aveva come avatar un esponente della famiglia Petri che risiedeva nella capitale Ronum, ed era sempre un discendente che millantava di condividere il sangue col primo, però appunto era un mortale con i poteri di Dio, e per un sacco di tempo ho pensato che queste fossero stronzate, fosse, non so, leggende, mitologia antica. Ma, beh, ora devo rivedere tutto. Dove ha detto di averlo visto? Nella periferia di Apeira. Ti dice il luogo specifico, praticamente è un villaggio, i campi coltivati di un villaggio a nord-ovest. Ok, non è roba mia. No, tu sei sud-est. E comunque sta parlando di quando lui aveva 11 anni, questo è un vecchio. Più, sì. E lui ha una 15 anni più di te, 20 anni più di te. Ora non mi ricordo di che anno è esattamente Nibel. E quindi Yelos esiste. E quindi... Quindi vuole che lo liberiamo? Non so, sicuramente tutti i problemi che avete menzionato, il fatto che siano pericolosi, eccetera, se fossi io a liberarlo sarebbe diverso. Ma immagino che c'è una moltitudine di dei, ognuno ha le sue peculiarità e ognuno pone dei pericoli. Quindi non lo so, non ho la verità. Soprattutto se consideriamo anche la possibilità di fatto che i diavoli possano essere coinvolti, rende molto più pericoloso il rilascio dei loro avatar o di loro stessi all'interno delle centrali. Ho un ultimo dubbio, e chiudiamo la sessione sta cosa qua. Il cuore e la persona con cui hai parlato non era un avatar. Credo di sì. No, La lasciamo così. oh, no. Giocatore, no, no, no, no, È no. luna. Domani sera giochiamo, per Domani sera. favore. Vabbè, tra Domani 5 sera minuti. giochiamo. Avete da fare domani sera? Sì. No, io Da fare. non me ne frega un cazzo se siamo alla Spezia, Piani. Ci Si facciamo gioca, si sessione gioca. di porco Dio di Fateless. Non ce la faccio ad Sì, aspettare sì, 2 settimane. sì. Porto giù il tablet. Ma facciamo tutti. Allora, tu davanti al computer, noi guardiamo di là, perché così Metti degli guardiamo tu. specchi in modo Sì. che... Allora. Raga. Dai, bella sessione. No, io volevo fare anche i sogni. Allora, devo dire, io qua ho voluto Prossima postare settimana. perché fosse a turno e non la facevo mai sta cosa. Io voglio farla e Sì. quindi Ah, lo prima o poi frusto. mi... Guarda, prima o Cosa? poi mi avrebbe castato soltanto per Sì, me. però non mi interessa. Com'è che avrebbe castato? Avrebbe fatto la spell senza il tuo permesso. Cioè... No, dai! Cazzo, ci siamo persi un altro Un stupro! altro? Uffa!